Grappa, grappa. Oh, stavo provando una cosettina. Prova, prova. E gli assembla che sta funzionando, là. Ok. Io mi ho acceso oggi giusto un paio di passaggi che loro si stanno preparando e li accompagno a danza. Oh, scusate, buonasera, fate la gola, che sono mezzo rauco. Ciao T, e cosa ne vendi? Cantendi? Insomma, facciamo un po' di ciò, abbiamo fatto balluria. Come questo microfono? Se lì ci devo chiedere. È buono, per me è buono. Veramente? Ah, questo è il più 5, la posso del più 4, o no? Con il presidente. Quindi non distorcio, no? Va bene come con modulazione. Non penso saturazione neanche, no? Sì, ma anche quello. Ma questo c'è l'Antonio che mi ha fatto una modifica al microfono. E niente, volevo sapere se andava meglio del 4, perché prima c'era sempre il 4, Basta abbassarlo appena appena, e qua giustamente può correggere quei toni, capito? E c'ha una cosa in più. Però la radio è molto buona questa, ecco, tiro. Allora gli lascio questo microfono, Non riuscivo a trovare un microfono per questa radio, perché andava sempre in saturazione, e quindi adesso qua faccio un'ulteriore prova, alzo tutti i watt, e mi dite se tende a distorcerlo o meno. Adesso tutti i watt, 12, non di più. Scusa, stavo mandando un messaggio, facevo mobilieri fino a 10 minuti fa. Dopo se ce la faccio ti mando un messaggio e un paio di fotografie che devo fare fuori. Manda. Ha cambiato qualcosa la radio, non si viene. Leggermente più forte. Ma dico, non è saturo, no? No. Bene, allora vi lascio questo, meno male che... Perché non sapevo proprio cosa fare, se il 4 andava a saturare, boh. E per te Gianni? Ok, allora lasciamo questo. A domani tutto va bene. Entra anche Antonio. Chi è Antonio? Riserva. Sono Rauco, per carità. Dino, chi è questo Antonio? Non so se te lo ricordi, Antonio Riserva. Sì, ho sentito qualche volta. Ma ieri mi è sembrato ce n'era un altro di Antonio, stava parlando con te già, chi è quello? Quello lì è, stava parlando con il mio microfono. Ecco, ho capito. Siccome gli ho detto, c'era più il tavolotto da aspirare, e poi gli ho detto, vabbè, fare la modifica, tanto che da più 5 si può fare, capito? Allora, ho fatto tutto uno. Anche nel più 4 si può fare la modifica? Non so, credo di sì. Non so, questo io non so neanche se c'ha più 4, intendo. Si può fare, ci va fatto un ponte all'interno. Io ce l'avevo così fatto col ponte all'interno, sia il più 5 che il più 4, spingevano bene tutti e due. L'unica cosa è che bisogna trovare quelle capsule, quelle che hanno lo sfondo verde dietro, non marrone, capito? Quelle sono superiori. I Viagra le metti come capsula, sai quanto funziona bene. Mamma mia, sempre mi piace. No, rimane sempre dritto il microfono e non sbagli. Maledetto. Lo so, ciao Clau, buonasera. Ciao, c'è anche Gianni. Gianni, è da un paio di giorni che ti sento molto male. Attacchi il microfono, metti il microfono che c'eri prima. Perché stai usando un altro apparecchio, Clau? Guarda che adesso, te lo ascolti. Sei tutto impastato, non mi piace. Cioè, la radio mi piace di mettere a me. Quella che oggi c'è, un altro apparecchio, se noi ci vai io non ti sento bene. Sì, mi sto facendo girare per fare dopo l'attacco, non so quale ti piace a te. Ma anche il Magnum va bene, questo non mi piace, è tutto impaccato, questo invece è il Cobra, Questo è il Cobra? È tutto impaccato con quel microfono, vabbè. Ok, già fa bene, fa girare tutto, io non devo far girare niente, andare dentro l'armadio. Va bene Tino, va bene, un bel abbenamento, bella corposa, bella amplificata, va benissimo. Il Royce riceve qualsiasi tipo di microfono, se ti procuri un tunnel più 3 ti dimentichi del 440. No, ma questo non è il Royce, attenzione. Cos'è quello? Quello che metti i buttacci, che non ti piaceva. Colui è sempre da buttare per me col microfono normale. Con i microfoni amplificati riesci a superare quella saturazione. Vabbè, siccome mi è più a portata in mano, ho voluto adattare un microfono. Se è così, spero che rimanga, che vada bene. Bene va, lascialo senza attaccare niente, mettile la potenza manetta 12 watt ed è più che sufficiente, va benissimo, alla grande. C'è, va bene così. Come faccio un'idea, la navetta ha fatto. Allo? A noi? Ehi. Allora, ieri non siamo andati in campagna perché il vento che c'era era allucinante, c'è una raffica che era 80-90 km radio. Questa volta li ho viste giù le antenne, però non c'è niente da fare, il lavoro ha fatto Fabrizio, ma volo a regolarsi. Ho tenuto bene il staff, ho tenuto bene tutto, il sistema, tutto, ma ci girava all'intondo. Però ne ha buttato due alberi grossi, gioco a pezzi, gioco di a pezzi. Stamattina. Tra l'altro è caduto, il primo è caduto più all'interno, quindi l'abbiamo lasciato stare, è stato fatto stamattina. L'altro è caduto proprio nel cancelletto di uscita, perciò non si poteva né entrare né uscire a piedi. Capito? E stamattina, fino a dopo pranzo. Le motoseghe, ma grande, sradicato completamente dal terreno, aveva un malloppo tra terra e radici, accanto alla macchina attaccati, due camion di roba hanno portato via, una cosa allucinante, il danno che ha fatto questo vento. In campagna invece, proprio all'ingresso, dove c'era un eucalipto, che però era bello pulito, era stato pulito bene tutto, l'ha sradicato, in via Cagiuto, in altro cancello, da una rete ha fatto. Sì, allora ti lascio il buon lavoro, cancello. E la legna che fine avete fatto? Mi serve la legna per il fuoco, me? No, la legna se l'ha portata via i giardinieri. Abbiamo un'impresa qua, no? Quelli che curano il giardino e tutto. Ma cura lì già ne fatto. Danno ne ha fatto. Danno ne ha fatto molto, molto, molto. Ma non solo lì, da tutte le parti. Madonna santa, che figura. Ma è pericoloso, perché l'anno scorso ne è caduto uno sopra una macchina. Di pini quelli secolari, quelli vecchi, e è toccato fare l'assicurazione, se non l'assicurazione. Ma... cioè vuol dire sale e scende a vedere gli antenni qua, una cosa allucinante, non vedo l'ora Massimiliano, non vedo l'ora cazzo di buttarle giù queste antenne. Quando vuoi, fine settimana mi sa che lo so buono, se vuoi. Sì, se fine settimana è buono Massimiliano voglio, ma dietro mio non si può, ma una cosa allucinante cazzo. Ma mi agio di valedare tralicci qui là, ma quali tra? Io c'ho un traliccio di 45 metri, è una cosa da buffonare, una cosa da scherzare, impressionante, vabbè, è andata bene anche questa volta, però nel prossimo momento non c'è nuova più nulla, è nata la gabbettura, tranquillo, ne ho goduto. Vai Gianni sta cambiando la radio, ma voi ce l'avete questo rumore, boom, boom, boom, boom, boom, cazzo bari ho un telescopico e esco la radio, grazie, boom. No, io no, ma io leggero, ma neanche lo sento, è poco male frega. Lo registro, Santiago 7 qua, e poi fa 10, 11 e 12 prende, misura, mi accetta, come dicono al ghetto. scappa già, beh loro sono pronte, dai, io vi lascio che devo uscire a accompagnarle a ballo. Ci sentiamo più tardi se coincide, dai, ciao Claudio, Tino, mandami le foto te così, se in caso ti aiuto, là, se si può, ok? Ciao Gianni, che fosse in ascolto, avanti te. Vediamo, ci vediamo. No, ma è una cosa, dove ti chiede se... Vabbè, ti mando un messaggio poi, te lo dico. Anche malato, nel senso un malato nel cambio e cambio. E poi vediamo, ne parliamo più avanti. Va bene, riprende qua. E io la sveglia, dai, se coincide fatti sentire più tardi. Io sono qua io. Dopo, vediamo, dove sono? Già le 6 sono, minchia. Guardi male, vista lunga, qua schiera, le braccia, su, tirato rave, ti. Mamma mia, come sto? Ci credo, ci credo. Vabbè, no, io mi devo fare 6 giornate da lavoro, ma non so se andarci, perché sono a mal di gola, a raffreddore, a strano, vado tanto così, mi conosco già, mi sarei subito a febbre, se... e quindi sono un po' riservato. E domani credo di non andarci, ma è una cosa che devo fare per i fattini, dai, diciamo. Io. No, ma è un tempo di merda, una cosa allucinante. Anch'io sicuramente mi prende, perché sono già dolori, la voce è diventata un po' più rauca perché c'era un po' di freddo stamattina. Cruciato, capito? C'avevo la... quelle tutte che usavo a lavoro, impermeabile, perché stava sempre più vicinando, quella leggera leggera. Siccome soffro di giratori cervicali, già c'ho mal di testa, quindi sicuramente. Il bisegaggia un godo, vabbè, però una mano dovevo dare. C'erano tutti, è chiaro, ci dovevo essere anche io, roba nostra. Insomma, come l'altra di qua. Allucinante, mai visto una cosa del genere. Senta, ha fatto un fosso, pensate, un pizzino lento. Poi ci credo. Ci credo, no, guarda, per Dio, no, non è affatto, ma... visto che avrei fatto anche un petto in via... Cos'è, in via su? No, via... Non lo ricordo. Via... Non me l'hanno più. Gianni. Sì, prego. Aspetta che me lo preparare. E non sono molto in forma, Claudia. Sono molto in forma. Adesso sono al centro diabetico. Mi hanno fatto la pulizia al piede, mi hanno entrato le siringhe, l'incidità, lui. Cosa c'hai al piede, Gianni? È sempre l'ulcera diabetica, che praticamente i battiti hanno camminato, se la dibattiti all'osso hanno infettato l'osso. E mi si è gonfiato tutto, quindi sono andato a farmi vedere. Mi ha detto di stare molto attento, perché questi battiti che sono infettati all'osso, secondo voi non devono infettare le belle rompite. Occhio, occhio, perché è pericoloso, lo sai, può andare in cancrena anche, però è un casino. Cura, cura, fatelo controllare, vedi un po', è pericoloso. Scusate, guarda, mi c'è stata la genica di qualche abuso, io ho messo la medicina all'interno. Meglio soffrire adesso e continuare a fare bene dopo, che non soffrire adesso e fare male dopo. Quattro anni, addirittura. Sì, 4 anni. Da, fa quanto da un vetro che mi ha fatto nel piede, c'è un po' di butica con la punta e mezzo all'erba, non l'ho visto perché ci ho messo il piede sotto. Mi hanno operato, ho messo tutto bene, si è tutti cicatrizzati, abbiamo tutti i punti, mi hanno lasciato un pezzettino per drenare, quel pezzettino non è mai guarito. Gloria, un attimino che devo fare una cosa, mi devo aspettare la raga. Riprendi, Claudio. Ehi. Vabbè, ho zuppo di pina. Non vedo che si già. È proprio così. E io, da quando mi si era staccata la spalla, non è più andato bene. Da lì c'ho dei dolori atroci, anche oggi. Mi fa male. È un casino. Purtroppo oramai, così, qualsiasi cosa succede, superata quell'età, non guarisce più. Io vedevo che allucinante, la notte mi si addormenta tutto il braccio, dopo dormire affaccinato, di fianco non posso dormire più. E vabbè, vada come vada, era lui quello che vuole fare. Come ti è Caronia? C'è da levarci. Caronia è, Giofra. Caronia è. Non mi dicevo più, no, per carità. Ma male, non devo lavorare più. Ma male di schiena, tutto. Non posso fare più niente. C'ho avuto meno l'artrosi di tutto ciò. Bah. Adesso, due minuti, mi lascio, mi prendo una bustina, mangio qualcosa, mi prendo una bustina perché sennò... Ma questo tutto posso stare. Riprendi Gianfranco con Gianni. Gastroprotettore. E quello lo prendo tutte le mattine Gianni. È 3 anni che prendo il gastroprotettore. Io al mese prendo 3 scatole di lasoprazolo, figurati. Al mese. Perché lo che è micidiale, c'è per Dio che è micidiale. Perché bisogna mettere il lasoprazolo quando sei... No, io ho delle bustine che mi ha dato proprio ortopedico quando facciamo la spalla, che continuiamo sempre a prendere quello. Sono tipo Loki, un antinfiammatorio, però è molto più leggero. Capito? È tipo il brufa, una cosa del genere. No, no, Loki, quello lì non ne prendo io. Uscia. Giaffra, beh, 5 minuti e riprendi con Gianni se vuoi rimanere. E poi fate quei ceruti che mantengono calda la fase, che stanno ceruti? Ce li ho già, non mi hanno fatto niente, ho speso una barca di soldi, e proprio mi si infiamma, basta che faccio qualcosa che non devo fare, mi si infiamma, proprio c'è l'ultima lettera con la vertebrale che non viene più. Me l'ha già detto anche l'ortopedico, ho detto stai attento a non fare uno sforzo perché non te ne alzi. E a volte mi succede che rimango piegato, sembra un colpo alla strega, invece è quello lì. Allora piano piano mi siedo, bustine, 2 o 3 giorni e mi passa, capito? Tipo lombosciatalgia, ma non è lombosciatalgia. E così a me invece ho fatto la lastra l'altro giorno perché tutti i due femmini mi fanno talmente male, mi fanno camminare con le stampelle. E praticamente c'ho come si chiama un'artrosi tutta la colonna vertebrale. Sì, io devo stare attento. Stare attento, io sono caduto a 10 metri d'altezza e fortunatamente ho impattato con l'acqua, però mi si è staccata la spalla, ho avuto una frattura all'esterno, quindi cioè l'esterno non si può, si aggiusta da solo, quindi frattura all'esterno, la spalla, avevo il braccio lo stesso ingessato. E hanno fatto 4 mesi di infortuni e da lì non mi sono servito più. Poi adesso ho paura, devo fare la visita, ho paura di andarci perché mia figlia c'era la artrite reumatoide, capito? Ed è in cura già da tanti anni. Io mi fanno male le ginocchia, tutte e due le piante del piede, i gomiti, i polsi, capito? E devo andare. Le dita a volte le stringo bene, non le stringo, non ho forza nelle mani, capito? Quindi molto probabilmente il dottore me l'ha già fatto 3 volte l'impegnativa, non mi so che andare, perché ho paura, intanto sicuramente sarà quello lì. Vado a andare l'eco, non ci sono andato però, capito? Perché qua ci siamo così ereditarie, non lo so. E vabbè, se ha giudito già, quando vuoi, io ho binocchi, decida lui quello che vuole fare, e se no c'è la Billellucci. Vai Gianfra. Insomma, va a finire il più buono che c'è qua, sono io. Sicuramente sì. Questa era bella. Ma, Clara, che te sei arrivato, tu quanti anni hai? Io faccio 60 novembre. Andiamo bene. Gianni, tu? Facciamo dopo i 60. E sono pure più vecchio qua, okay. Non so, Gianni ci abbiamo un mese di differenza, però non siamo buci vecchi tutti e due. Insomma, tu l'hai detto Gianfranco, è una cosa che così è detta per, no, come un po' fanno tutti, ma tu credimi, io quando lavoravo con tutti questi dolori che avevo, continuavo a lavorare tranquillo e sereno, non molto sereno, però tranquillo, nel senso che devi andare, vai, non mi chiamo, ma da quando sono fermo? Io sono un anno e quattro mesi fermo, insomma mi sono aumentati i dolori, una cosa pazzesca, io tutti i santi giorni, non c'è giorno che devo prendere una bustina antinfiammatoria, la pastiglia per, quello per, una pomatina, una stronzata, sempre, sempre, sempre, capito? È uscito, non c'è niente da fare. Quando ti fermi diventi un montone di garraggio. Claudio, tutto ciò che hai detto, se ti può consolare, è lo specchio di quello di lui. Sì, sì, già, ma è così, credimi, cioè, noi siamo lì, abbiamo un mese di differenza, quindi cercavo di tirare, di fare, anzi quando qualcuno diceva che c'è tutto dolore, dicevo, a me fini nira, io andiamo, fregati, io sono peggio di te, dai, facciamo, facciamo, adesso no, proprio, ho paura di mettermi a fare perché non ce la faccio. Non ce la faccio, ma c'è un sacco di cose da fare, no, non poche, non poche, molte cose da fare, da tutte le parti, qua, là, a destra e a sinistra, e non faccio niente, sto facendo fare agli altri, io li sto guardando praticamente, perché non ci riesco, non ce la faccio, non è che non ci riesco. Io lo stesso, ho preso la frutta alle mani, pensa che quando, allora non caricavamo con la pedana, quando caricavamo i frigoriferi sul camion, non mi dava il denti, chiamate il giallo, andavo io con un braccio, ho preso la mano di lui. E infatti il principale diceva, a me, se l'avessi chiamato da solo ce l'avrebbe fatta da solo, e voi in tre non ce l'ha fatta. E poi adesso va a capire un capo di tutti di adesso. Già, la stessa cosa, non ho forza le mani, non ho più forza le mani a stringere, a fare. La stessa cosa, la stessa cosa. E ho paura che ci sia qualche problema serio, che sicuramente c'è, però devo andare, infatti c'è mia figlia che si è incazzata, mi ha detto se non vai ti accompagno io, a forza, e vabbè, ci devo andare. Va bene, dai, riprendi Gianfra, due minuti arrivo subito, vai. Così, purtroppo così. Quindi a me in poche parole sta andando molto peggio, l'unica cosa che se mi cade la roba per terra devo fare qualche manovra a raccoglierla, però poi insomma la terra è bassa, è diventata bassa, bassa, bassa. Gianni, e beh. Ma io stavo pensando, anche io dicevo Gianfra, a casa sono l'unico che la sono andata all'ospedale a cantare in vittoria. Dopo faccio tre mesi di ospedale. Ah, per quello già c'ho delle belle esperienze tra ospedali e pronto soccorsi, oramai mi conoscono, però per altre cose purtroppo, però insomma ognuno ha le sue e niente, io ci vado così a fare delle cose e questi rompono le scatole e vabbè, capita. Claudio, bene, a te come sono andata con te? Non ho capito già, hai detto a te come sono andate? Come sono andate le antenne in convento dentro Claudio? Claudio, si è allontanato un attimino per prendere quella roba, le medicine. Le mie sono ancora in piedi. Io allora devo prendere una antibiotica. No, io prendo la mattina solo quella per il... per lo stomaco, non è la sompratolo ma tanto prazolo e basta, di altra roba non ne prendo perché già mi sono dovuto fare una scorpacciata di crema perché c'avevo un attacco di mal di schiena di quelli brutti brutti. Allora ti mangiavi su. Ma non fanno niente le pomate, quando c'è dolore che gli inizio non ti fanno bene, voltano i muscoli. Ma con la crema è un antidolorifico, capito? Là sono il dolore, anch'io pensavo così, invece pian piano ha fatto effetto, dopo i tentativi con cerottini, trick e track, neanche i tacchi linea 1000, sentite quale cosa, hanno fatto un tubo, e allora ho provato con la crema ed effettivamente sono riuscito a cavarmela per adesso. Poi vediamo, adesso purtroppo c'è anche questo tempo, se no me ne sono andato a farmi un po' di cross. Tanto la schiena ormai non ce l'ho, quindi quello che non c'hai non ti puoi rompere, no? Perché che moto c'hai da cross? Io ho avuto il cavallo regolarità a casa sia male. No, guarda. La moto per me è sempre un fantasma. Non mi fa effetto, guarda, ma se vedo una moto, non lo so, perché, non mi chiedere il perché, però non la posso neanche toccare. L'hanno fatto vedere una del collega, ma giusto senza toccarla. Se la tocco sono molto fobico. Bici, io vado in bici da Macross, facevo, cioè fino a che mi sembrasse questo accidente, facevo di Sterrati, Montedoglia, Pontagiglio, anche la pineta di Trattamona. Infatti ho fatto la pineta di Trattamona perché mi stavo riprendendo da una presunta malattia che poi non c'era, cioè, o meglio non era una malattia, era un problema che c'era, invece era insomma un falso allarme. E stavo riprendendo e meno male è venuto questo acciacco pure. Ho fatto un po' di sterrato, era un po' duro, anche bagnato. E quindi ho preso alcuni colpi e ovviamente uno di quelli mi ha incicciato qualcosa. Adesso vediamo, appena il tempo migliora me ne faccio un altro pezzo a vedere se mi ricapito. Ti sei sacato? Può darsi, perché io la bici è troppo pesante, quindi non mi alzo, perché tra l'altro è anche elettrica, no? Quindi pesa 23 kg. Facendo, sai, quelle discese che sono abbastanza pesanti, io ho solo l'ammortizzazione davanti e non al centro, cioè ho pensato che non mi piacesse al centro, ma se l'avessi presa sicuramente sarebbe stato meglio, eh. E invece, vabbè, pazienza, se arrivo a 70 anni la prossima sarà anche con l'ammortizzatore centrale. Che autonomia c'ha questa bicicletta? Sassari anche non ce la fai. A voglia, proprio che sia. Io sono andato, insomma, non lo ricordo neanche più, verso oltre Castelsardo, croce dell'Elefante, però facendo tanti giri, mi ho fatto intorno oltre 60 km e la batteria non è arrivata neanche a metà, quindi nonostante la salita, ho fatto la salita quella pesante, no? Quella di coso lì, adesso mi viene quella di Tergo. Poi la salita del Castelsardo, del Porto, però no, è durata tanto. Loro l'hanno 160 km, io direi, secondo non ci credo, la prendo come 120, da. Ma sempre a batteria per l'ospedale? No, io ho, nonostante la schiena, a me mi si blocca anche la gamba ogni tanto. Nonostante tutto io insisto sempre ad andare a pedalare normale, anche certe salite me le faccio diciamo senza motore, e non so quanto mi faccia bene, perché insomma un aiuto ci vuole, invece io insisto, quindi mi tiro dietro questi 23 kg. Ed è così, sai, quando uno è fissato. Ah, cavallo. Dove sono? Riceve, dici, ma... Claudio, che dice qui? Ehi, mamma mia, come sto, fanno male tutte le gambe, le ginocchia. Cazzo, speriamo che non piova più, porca miseria, passata l'acqua che ha fatto, E ti hanno fatto tenere già fratte? Ma guarda, per quello che ho visto, altrimenti da solo, devo dire, cacchio che struttura che ha fatto. C'erano le mie antenne non sono ancorate, cioè ancorate nel senso non hanno tiranti, quindi ballano sul serio proprio, deve oscillare, che è qualcosa di impressionante. Però devo dire, sono ancora lì e funzionano, non hanno neanche stazionaria. Lo stesso di Casipunk per la Game Master, che ho detto, ma questa è la volta bella, la volta buona che la spezza, invece sto vedendo, stazionale zero, funziona, mi sentite, quindi mi devo fare i complimenti. Purtroppo mi sono reso conto però che il punteggio dovevo abbassare, perché non ce la faccio più a salire su. Purtroppo con questi dolori, se mi si blocca la gamba, se cade da lì lo puoi fare una volta sola, perché non ce ne sono due volte, perché in mezzo sono le crociere, sotto è tutto calcestruzzo, quindi anche se è basso 10 metri, però un errore di lì è fatale, quindi lo abbasso, lo porto a 8 metri e è buona tassicchia. 8 metri, 10 metri di master io, allucinante, 45 metri di antenne io ho già fra, adesso non ne so più che adesso ne cadono più, una cosa pazzesca, cioè la verticale, la 510 a 75 gradi stava lavorando, allucinante, la manta va manco si muovia, manco faccio un tubo da un pollice e mezzo senza, da 2 metri, cosa, non ne ho io di tubo nella manta, cosa devo sollevare, è già alta, quindi male direttiva, duro mio fratello, ci sono 4 tiranti sopra e 4 tiranti sopra negli agganci della gabbia che mi aveva fatto Fabrizio, ma è sta fatta a regola d'arte, non c'entra a fare, il sistema è eccezionale, lo ha fatto tutto Fabrizio, è eccezionale il sistema, ma io pensavo le antenne le rompesse perché i radiali 10, 15, 20 di quanto si spostavano quasi toccavano assieme, e ho detto adesso partono le bobine e sì, le varie modute, c'erano anche modute del gommo, invece ha tenuto bene, ha provato, stazionario niente, tutto ok e funzionano perfettamente, meno male, ma raffiche così non li ho mai visto io, c'è stato un vento molto forte, però era maestrale, è normale, ma uno sciroppo e un libeccio di questa maniera mi ha sradicato due alberi sradicati, due pini grossi, ci ho avuto tutta la mattina e anche il primo pomeriggio per tagliarli e portarli via, due alberi dentro il giardino, figurati tu, e vabbè, speriamo che avremo in fretta l'estate e se la bidellucci, vai già Gianni. Sono allontanato, comunque Claudio, ti ho detto 10 metri, ma 10 metri è il punteggio, poi sopra ci sono altri 10 metri di tubo d'almine, quindi è una cosa, io la tiro giù da solo, però con carrucco, le corde, perché non è lavoro da fare da soli, bisogna stare ben attenti. Ho fatto tutto un sistema per capottarla, capito? Però è troppo, cioè non mi posso mettere così a fare per la forza. Se ne butto giù 20 metri di tubo perché si capovolge, no? È un sistema tipo a bilanciere. Però ne ho scatole piene, dai, non serve a niente, con i nuovi sistemi oramai, no? Si può anche ridurre il tutto, sono troppe, poi ce ne sono tre su questo affare, più due di poli enormi di 80 metri, è troppo. No, ma quei livelli cos'è? Di poli no? Che direttive già fa? Io ho la il sistema direttive come hanno tutti, non ho traliccio perché io il traliccio non me la facevo niente, è a parete, sta fatto con le contropalle, però è 4 più 6 sono 10, sono 10 metri dove sono le antenne, le direttive pesano, le direttive se si rompono sono duri, capito? Le c'è quella dei 6 metri sopra, poi a metà c'è 10, 15, 20 e poi c'è l'altra monobanda sempre tra elementi di 10 metri, da 17 elementi per le VHF e 17 elementi per le VHF, cioè c'è un sistema normale come hanno tutti. E a questa altezza è un casino, molto casino, capito? Vabbè, però ho visto che ha tenuto, vuol dire che già continuerà a tenere, ma appena arriva il tempo bello abbasso e già fra, abbasso e tanto io non faccio attività e non ti metterebbe lì, perché se mi si rompono mi dispiace. Dammi un secondo, Gianni, riprendi. Non riprendo qua, che non mi sento bene, mi sto un po' all'ascolto, riprendo dopo magari se mi sto un po' meglio, sono tutto a dono di furto. Vabbè, Claudio, sei passato lontanato, va bene già. Ok, siamo qua. Purtroppo questo, anche questo clima è terribile. È terribile. Va bene, ok, anche io sono qua. Claudio rientra, siamo qua. Chi è che chiama lontano, lontano? Chi è? C'è un po' di gente sotto, S4-3, questa è propagazione. Scusa Giaffra, che stavo mandando un vocale a un amico. Sì, sì, c'è anche un'altra propagazione qua, non so se li senti sotto, se fosse... soliti russi. Gianni si è notato perché sta molto male adesso. Lo so, Gianni non sta bene, non sta bene, non sta bene. Voglio che ti dica, è un casino il bacio, ma vabbè. Sì, io stesso me lo so, capisci, sono male tutte le gambe, sono male tutte le gambe, vabbè, io ho forzato molto oggi. Però sto fatto che quando mi siedo non riesco più a alzarmi. Mi pare una cosa troppo eccessiva. Per i primi giorni se hai fatto sforzi è normale, quindi dovrebbe passare, può essere anche se hai forzato molto l'acido lattico, deve essere depositato e quindi lo devi far smaltire. E poi devi pensare che abbiamo un clima che non è nostro, ci sono anche sbalzi di 10 gradi nel corso della giornata. Sta distruggendo tutto. Penso io lo vedo anche dai gatti, che qua ci sono i gatti, ma anche loro non mi sembrano proprio in buone condizioni, capito? Stanno soffrendo e si vede. Adesso è uscito il sole, qua sembra una giornata primaverile. Ne capisci? Ui, qua il sole non ce n'è, è ancora nuvoloso. Neanche uno da fa che ha smesso di piovere, sto bagnato. Non so, io sono andato stamattina in campagna, dove ho avuto un albero vicino al cancello, proprio a raso al cancello, e ha piegato un braccio dell'automatismo, quindi domani sicuramente verranno e cambieranno il braccio. Io ti dico, nessuno va a Pulidinà, e basta. Non sai che è così, se io qua ho fatto tutto, faccio tutto io, le questioni tecniche, poi sono gli altri che fanno le questioni agricole, per dire, perché ci abbiamo anche l'orto, però lo so che è faticoso, è un secondo lavoro, perché o si impalla il cancello, o si impalla... Guarda, sto cambiando cavi che tu non hai idea, perché la condensa, l'umidità riesce a penetrare anche sulle scatole, che sono sigillate, ma è una cosa che non si crede, guarda, è una cosa micidiale veramente. E niente, adesso mi servirebbe una scala aerea, perché anche io ho un pino che oscilla troppo, sembra grosso e ben piazzato, però l'istinto mi dice di stare attento, perché se mi cade quello mi sfonda l'officina, è un disastro, rischio anche di fare danni, cioè se cade lì fa danni molto molto gravi. quindi devo trovare un po' qualche sistema per tagliarlo a metà almeno, perché è troppo alto, è troppo grosso e balla. E che fa? Bastava dirlo prima, Scaveria, io ce l'avevo 3 mesi qua, stavamo facendo lavori a fuggioli, ripristini di intonaci praticamente pericolanti, fornicioni, abbiamo fatto un sacco di lavori e abbiamo cimato anche qualche albero, qualche arbolazzi, e quindi bastava dirlo, un salto si poteva fare a cimare quel pino. Stai attento perché guarda questo, che al bradicato non ha dato mai nessun segno di vita, manco si muoveva col vento, nulla, è caduto da solo, proprio morto, caputo, ha fatto un danno allucinante, perché anche qua è caduto vicino al cancelletto, ha rotto tutta la siepe, ha rotto due pali di illuminazione, infatti c'erano elettricisti stamattina, però stava piovendo, hanno mollato tutto, quindi stasera siamo al buio, tra l'altro. Non ha dato mai nessun segno, pensavamo proprio che non, ma che ce l'aspettavamo, abbiamo sentito il zocco, è caduto almeno un metro quadro di pavimentazione, perché è caduto nell'uscita del cancelletto principale dove è tutto pavimentato, un sacco di danno ha fatto. E vabbè, ha piegato anche lì il montante del cancelletto d'ingresso, grandissimo, un pino enorme. No, stamattina c'era, sono venuti alle 8, ho finito piano alle 3, tutta la mattina tra tagliarlo, portarlo via, pulire, fare, vabbè, così avete detto. Un casino est, i venti purtroppo quando ci sono bisogna stare molto molto attenti. Questo è una scirocco. Scirocco, il beccio, qualche passata di greccare ha fatto, ma certo, lo scirocco che ha fatto, ne ha buttato l'albero, ma è una cosa impressionante, raffica da oltre 80 km orari, impressionante. Perché i pini adesso sono anche proibiti, non si possono più piantare in città i pini, perché hanno le radici che sono superficiali, non vanno in profondità, quindi cosa succede? Il minimo... Il pini, vabbè, quando c'è il vento sono i primi alberi a cadere, perché hanno le radici che si espandono ma non vanno sotto. Ah, guarda che scena. Adesso ho guardato il treccio, c'è anche la bandiera, no, che dà il segno del vento. Non c'è vento praticamente, c'è stato totalmente, da come era stamane, nulla, proprio non c'è niente. Una calma che fa anche paura. Quello che temi, capito? È quello che temi, perché poi la sera o di notte all'improvviso salgono queste raffiche di vento allucinanti. E quindi bisogna stare attenti a quelle cose, perché non te l'aspetti. Adesso io chiaramente oggi no, perché è tutto bagnato e non posso lavorare sul tetto, ma se domani, come ha detto, è una bella giornata, che non piove, che non c'è vento, devo salire, ricontrollarmi tutti i tiranti, vedere un po' se ha fatto danno su, perché io non so, quello che è successo su, ho visto le antenne ci sono, c'è tutto, funzionano, però può darsi che abbia sganciato qualche tirante, che abbia piegato qualcosa, non lo so. Quindi domani devo salire e dedicarmi a queste cose, ma devo fare anche altro, quindi ne ho le scatole piene, stare appresso al barattino, alle antenne, c'ho altre cose più importanti da fare, capito? Infatti con Massimiliano abbiamo deciso se il fine settimana ce l'ho da buono, abbasso tutto e metto tutto, smonto tutto, uso la filare 10, 15 e 20 e basta, e boh, l'antenna normale, la 510 per quanto riguarda le voli, ma ne tolgo tutto, tanto non uso niente, e lì ho tutto ma non uso niente, alla fine mi fa solo danno, creo problemi, non sto in agitazione, perché se ne cavo l'antenna lì sopra io faccio danno forte, non sono antenne da 2 metri, i bracci delle direttive sono da quasi 10 metri l'uno, mi stai scherzando? Faccia il buco, butto, c'è la biglia al culo. Cambia di rubi il tema, è il masturbo alto. Sì, è la sì, già te l'ho detto. Non mi dispiace, non mi interessa, anche perché l'attività la faccio, l'ho sempre fatta con i filari, ma sai, i filari sono dei pezzi di filo. Se si sgancia, sale e lo riagganci. Ma lì ci sono antenne che costano, cose che ho fatto sacrifici, e perderle non mi va. Perché ero convinto di perderle. Ero convinto che si spezzassero, perché quello che ho visto, che sono mantenuto con le antenne, già me l'aveva detto Marco. Tutte le antenne me l'aveva fatte comprare Marco, perché non c'è esperienza, ma ha piccato un po' dubbio e fa delle ottime antenne, belle, robuste. Io ce l'ho anni, non mi è mai successo niente. E così ho seguito le direttive, il lavoro, il sistema, era quello che aveva Fabrizio, il primo che ha fatto, quindi ha fatto regola d'arte, le staffe le ha fatte lui, e sono a tirafondi da 12, mi sembrano, quindi non è un problema, però ho avuto paura. Quindi prima di perdere le antenne, siccome sono state pagate con soldi e sacrifici, le tolgo, le pulisco, le conservo e le metto a posto. Se capiterà che ne ho voglia di fare un sistemino per potermi divertire, lo faccio, se no non me ne ha fatto nulla, assolutamente. Già. Ma la manta va manco, ci muoveva, perché ho 2 metri di tubo stringato di acqua da 1,5 pollici, sempre a parete, nell'altra parete della mansarda, manco si muoveva, no, manco tiranti, male direttive, Sant'Antonio mio, ui, come sto già a fare? Non sapevi che era marogna, poi diventa un problema serio, infatti io riduco tutto in modo che possa ancora armeggiare meglio, più tranquillamente e senza aiuti soprattutto. Così, perché insomma, naturalmente se devo cercare qualcosa me ne cade sulla macchina e mi secca. E quindi abbassando un po', anche se cade, almeno la evito, perché è una cosa abbastanza lunga, quindi sono più seccature che altro. Tu fidati che non ho neanche piazzato il cavo, ho almeno 300 euro di cavo buttato, il migliore che c'è, che si può mettere anche sott'acqua. Lo volevo mettere per un'altra antenna, un anno lì fermo. Ho cavo, poi c'è tutto il sistema elettrico, sai, quello della Meditron, sempre che mi ha fatto tutto Fabrizio e Maurizio, quindi cavi che salgono, scendo di alimentazione, commutazione elettronica. Un bel sistema, veramente, mi dispiace toglierlo, però lo tocco. Immaginate che il boom della tre elementi esce dal palazzo internamente, esce 50 cm, 80 cm. Quindi ho la punta dell'antenna che è puntata a nord, è già fuori del palazzo. Immaginate tu se si dovesse piegare. Se si piega e cade giù, intanto ammazza qualcuno se lo prende sotto da quell'altezza, no? Trapeso e tutto quello che c'è. Il MAS, che è un tubo innocente zingato, Fabrizio addirittura gli ha fatto la scaletta per salire in punta, cioè i cosi, no? Per salire in punta per staccare la 510 quando l'antenna è montata. Sì, domani va su, lui già sale, sì. Lui è proprio un gatto, capito? Però ho avuto paura, guarda, ieri veramente ho avuto paura, perché maestrale me la spinge dentro l'antenna, quindi se dovesse succedere qualcosa rimane all'interno, ma lo scirocco lì invece la spingono in fuori, quindi può sganciarsi i tiranti, rompersi i tiranti e cadere sulle macchine. Questo non lo accetto assolutamente, quindi appena c'è una giornata bella ne smonto tutto e poi quando sarà conservo tutto. Se decido in campagna di fare un sistema simile a questo per potermi divertire, lo faccio. Diversamente rimane tutto com'è, non mi interessa. Io la radio già la faccio lo stesso, 27 VEU, poi c'ho di Polo sempre che mi ha dato Marco, eccezionale, che funziona molto bene, quindi ho lavorato per tanti anni con quello, continuo a lavorare con quello. Non farò gli Stati Uniti d'America, ma l'Europa già mi diverto lo stesso, magari si ne affutti. Così è già, così è. un certo punto si crea anche problemi, perché devi stare al passo, devi comprare, devi fare, non tanto la radio ma le antenne, senza le antenne non fai niente. Io ho voluto fare l'esperienza, ma per carità di Dio, guarda, allucinante. Io lo ricorderò sempre quando abbiamo piantato la mia di antenne. Tu immagina, te l'avevamo già, malato, tranquillo, leggero. Tu vieni qua, prova a venire qua, a 40 metri, io ho 35 più, c'è Torrino, sono più di 40, sono 45 metri, perciò prova a venire qua, prova. Manco io, quando c'è il vento, non ci salgo mai, ma salgo, perché manco la finestra posso aprire. Capito? Molto pericoloso, io già fra non ci riesco a farlo da solo, questo è il lavoro. Qua, quando abbiamo tirato su le antenne che erano già montate, però le abbiamo lasciate basse, è venuto sia Tino che Luca, Flipper, c'era Vanni, Alghero, c'era Elio, c'era, abbiamo tirato su, avevamo in quattro, le bucce di giocano, e con una volta c'è il peso, cioè, e devi tirare su, ci vuole forza. Adesso abbassarle con Massimiliano, che già è abbastanza fuzzuto, se poi il libero Tino, chiamo anche a Tino, giusto per la sicurezza, ma ci vuole gente, non è cosa fare da solo, t'ammazzi. E come inizi a mollare i bulloni, te ne scende 200 kg sopra, non stai scherzando, lascia perdere già fa. Ormai non siamo più giovincelli, quello è un sistema che voleva fatto per me, per poterci lavorare da solo a Carrello, però Carrello non è stato fatto, e quindi sul telescopico ci vuole gente per poter abbassare e tirare su, se no non t'ammazzi. Sì, purtroppo è così. No, io me la sono cavata da solo progettandolo che si capottava, capito? Solo già i contrapesi sono, credo, 30-35 kg di contrapesi per poter portare giù con le corde il tubo, per farlo capottare e poi tirarlo su. Però poi ci sono controcarrucole, quindi per esercitare la forza di tirare su 20 metri, per vedere come si piega quando lo tiro su. Ci sono due tubi, quindi due contrapesi praticamente, un al lato, però non fa più, capito, non fa più. Io per l'antenna HF c'ho una verticale che va non bene di più, l'ho provata anche ieri, e chi ce l'ha nei commenti ha fatto tutto il mondo, quindi non è questione di direttiva o quello o quell'altro. I dipoli li ho costruiti io, vanno benissimo e vanno anche a 60 metri e mi sentono, quindi è meglio di così. Sono anche negli Stati Uniti ogni tanto, quindi non c'è bisogno, c'erano gli anziani che ci dicevano sempre con i dipoli hanno fatto tutto, le direttive all'epoca non aveva nessuno, perché era tutta la gente anziana, quindi ti lasci di poli e continui a parlare con tutti, non ti sentiranno a fondo scala, però chi se ne frega, l'importante è sentirsi, capito? Tutto qui. Sì, quindi dicevamo, una scala aerea, giusto indicativamente, solo per tagliare questo cacchio di pino, quanto costerà? Che cifre siamo? Guarda, la Novalt lì a Li Punti, mi sembra che sia San Giovanni, non so se mi ricordo, non costano molto, c'è una scala aerea anche da 10-15 metri, noi avevamo una da 22 metri. 22 metri, mi pare che era 130 euro al giorno, 130 euro al giorno, quindi al giorno, quindi dalla mattina alle 8 alla, tutto il giorno, 24 ore praticamente, la devi riconsegnare l'indomani mattina alle 8, 130 euro, capito? Quindi se lì ho lavoro di, non so, mezza giornata, ti metti d'accordo e penso che sia la metà. Chiamare qualcuno che ci salga sopra questa scala aerea, cioè c'hanno anche quello, l'operaio che taglia l'albero. che già fratella l'anno, non leggio con operatore, perché costa 130 euro al giorno, perché c'è l'operatore, c'è l'operatore, non te la danno a te, no, la guida lui, la manovra lui e il lavoro lo fa lui. Sì, era quello che dicevo, io non la voglio la scala aerea, cioè voglio uno che venga alla scala aerea, salga su, vedo, abbiamo le sedie elettriche, tutto quello che vuole, ne abbiamo anche qualcuno a motore se non ricordo male, insomma gli strumenti ci sono, questo se vi porta lui è anche meglio. Tagliato va tagliato in qualche modo, non saranno le 130, le 200 in confronto a un danno che potrebbe fare, è veramente enorme, salvo che non ci sia pure qualcuno sotto, e allora è anche più triste la cosa. Ma lo sto dicendo, vai lì, vabbè, ottava forse, sì, sono alte, quello dove c'ha le noleggio, ma mi pare sia ottava, San Giovanni ottava, non so. Qua quella grande che hanno portato l'hanno portata sul pianale, l'ha portata il figlio di Gigi, l'ha portata il figlio di Gigi sul pianale perché non ha targa. L'altra invece che avevamo piccola era quel camioncino da 22 metri, capito? Vai lì, ti metti d'accordo, ci senti, ma mi serve per mezza giornata, pure non lo so. O venite a vedere, in base a quello che loro vedono ti mandano l'autoscala per la sicurezza, perché lo devono vedere, perché sai, c'ha le stabilizzatori, quindi dove deve stabilizzare, in che terreno deve stabilizzare, in base a quello loro ti mandano l'autoscala con l'operatore. Ti metti d'accordo Gianfra, perché te l'ho detto, noi quelli lato strada non ce lo aspettavamo mai, all'interno è successo già due volte del giardino, ma lato strada no. Se prende una macchina o prende una persona o fa danno, capito? E metto giù due rasure, metto un sacco di battaglia, quindi vai, avvicinati, glielo dici, se secondo te ho lavoro in mezza giornata, dici guardi, mezza giornata penso abbiamo finito, quindi dalle 8 alle 2 ti fanno un buon prezzo, perché gente anche seria. No, ma che non ho capito, com'era dire Novalt, guarda che si vedono nella strada che la ciascia li porta a Porto Torres, ma adesso non ricordo se dopo San Giovanni, sì, è a ottava praticamente, dai, ottava, è proprio di fronte a casa di Gigi. Ah, sì, ho capito adesso, quello che c'era sempre in aria, diciamo, si vedono che sono sempre sollevate, passo sulla 131, che sia prima dell'incrocio di San Giovanni. Esatto, esatto. Perché c'è la Summer, ma ti dico già di no, chi so carica la Breda, la Predanieta. Queste invece sono persone serie, hanno l'operatore competente, l'autoscala, ti ripeto, prendono appuntamento, telefoni, o ci vai, loro vengono e guardano soprattutto il terreno dove deve operare il mezzo. In base a quello ti danno il mezzo con gli stabilizzatori che hanno un determinato, insomma, in base a quello loro ti danno il mezzo, in base al terreno, in base al posto dove deve entrare, dove deve camminare, capito? Sono persone serie. Io un paio d'anni fa ne ho buttato giù uno grande, lo stesso, che quello era trovato sulla strada. L'ho imbragato con una corda che ho preso appositamente, di quelle che reggono qualche centinaia di chili, tipo sarla di nave, e l'ho legato a una certa altezza, poi l'altro pezzo l'ho collegato al fuoristrada. A mio segnale ho iniziato con una sega, tra l'altro elettrica, no, ma di quelle piccole, a lama piccola, ma è una cosa micidiale, veramente, sono mangiato. E ho fatto un taglio prima su un lato, poi sull'altro, quando ho iniziato a vedere che era un po' in profondità, ho detto alla macchina, metti in tira, ha tirato, e questo boom, tutto a terra, via. E poi tagliato a pezzettini. Io insomma per cimarlo ci vuole l'autoscala, per cimare ci vuole l'autoscala, ti ripeto, se mi dicevi un mese fa un salto ce l'avremmo fatto, perché con Gigi l'operatore io ero già in coso, come si dice, in accordo, insomma, ben, perché lavori qua, li ho seguiti tutti io, il condomino, quindi non c'erano problemi, chiaramente dopo l'ora di lavoro, quindi dopo le 4:30, un salto ce l'avremmo fatto e avremmo cimato, però tu non mi hai detto niente, io sto scavando, non io più, abbiamo consegnato, i lavori sono finiti, adesso penso che giugno-luglio forse, tra giugno e luglio, dobbiamo fare il ripristino della facciata dell'autostrada, sempre con l'autoscala. Però ti ripeto, vacci perché sono persone serie, ti danno il mezzo giusto, l'operatore giusto, io avevo 2 mesi e mezzo uno qua fisso, quindi bravissima persona, competente, non, mi ha fatto anche lavori a me mi ha cambiato tutto, perché era già vecchio il tubo praticamente in PVC che entra, c'è il pluviale bucato, io non lo facendo nei cavi dentro, canalizzati sempre sul dentro un corrugato grosso, e poi entrano, c'è il foro all'altezza della finestra, e c'è 1,5 metri di, sempre di corrugato, però da 2 pollici, ed era già bucato con la baracca eccetera, l'ha tolto il vecchio, ho messo il nuovo, tutto siliconato l'affare, mi ha messo i cavi dentro, tutto fascettato, con gli occhiali, sono fatto un bellissimo lavoro, e non mi ha preso niente, capito? Abbiamo fatto dopo le 4:30, si è trattenuto un'oretta e me l'ha fatto, perciò non è un problema questo, se me lo dicevi prima era già stato fatto, mi ha detto adesso io autoscala non ne ho più, dobbiamo consegnare, capito? Ti ripeto, se ci vuoi andare vai lì, ti spieghi il problema e loro in 5 minuti te lo risolvono, perché ti mandano il mezzo giusto, con l'operatore giusto, perché fa quelle cose lì, perché c'hanno operatori diversi, chi fa muratore, chi fa l'imbianchino, chi cima alberi, chi fa, capito? C'hanno un sacco di personale. Va bene, avanti Gianni. Gianni si è appisolato, capito Gianfra? Vieni te, fai te. Sono la cellulare. Via. Poi mi devo sempre decidere a smantellare un po' di roba, tanto c'ho sempre l'apparecchio lì, è già attaccato anche dalla corrente, da tutto, lo devo solo mettere in scatola e poi metterci i manuali dentro, tutto quanto. Solo che non c'hanno niente, è una roba che mi interessa in Germania, non posso mandare un pacco in Germania, già messo il fuoco, poi non so neanche se prendono l'usato in Germania, qua oramai anche molti negozi non c'hanno più niente, veramente. Poi devo dare, ce l'ho qua davanti anche un Rosmetto della Revex, che arriva fino a 1200. È un po' vecchiotto ma tutto bene, e poi non so cosa devo fare, e comunque ho sempre un sacco di apparati anche eliminando questi. Sì, quanti soldi, Ciao Fra, io te l'ho detto, l'ho visto da poco a 750 euro quella che tu, cos'è l'SG la tua? 590 l'SG è? S, nella scatola c'è scritto S, senza la G, ma io ho fatto l'ultimo aggiornamento che è dal mese scorso, quindi 2019, ed è anche aumentato la potenza, adesso è l'apparato più potente che ho qua, No, figurati che non me ne ho mai accorto, perché diciamo c'era il difetto che ci va basso come apparato. Ho fatto l'aggiornamento e evidentemente l'hanno corretto. Infatti lo stavo cercando sia per questo che sto usando adesso, sia per anche il 2000, però non ce n'è, sono già aggiornati e loro sono più piccolini come potenza. Ma se ti ricordi un giorno ti ho detto che cos'è l'S, l'SG, l'SX, perché ce ne sono tanti modelli. L'S è il modello che hanno fatto da 50 watt, capito? 50, 70 watt da, neanche, perché ce l'aveva Antonio, è bio. E anche lui praticamente lo pilotava dall'amplificatore in mala laterale. Capito? Mentre c'è anche la versione, l'SGX mi pare sia la versione da 200 watt addirittura. Quindi, no, sono belle radio, però non ho, è inutile che, perlomeno, io l'avrei tenuta. Perché cosa la vendi? 700 euro, 800 euro. Sei in perdita. Non so, io te l'avevo detto. Lasciamela, la faccio vedere, vedo un po', rialzo la mano, poi non ci siamo più sentiti. Capito? Magari due foto, due cose, amici, sai, io c'ho più giro, ho avuto anche da poco un altro HF. Allora, se va bene in chi vede tre cattola, è chiaro che non fai. L'ho detto, non è qua, io radio qua non ne sto dando, diciamo, a nessuno, qualche stronzata, qualche fesseria, ma radio così, le mie, io le HF le ho venute tutte fuori. Io ne ho tenuto due sole, ne avevo quattro, ne ho tenuto due, le altre due le ho vendute fuori. Quindi bisogna fare foto, tu non hai WhatsApp, non hai nulla. Quindi cosa, non so cosa dirti. Guarda, se lo vuoi io te lo posso fare anche a te, problemi non ce ne sono, te lo sai. C'ho anche il microfono, il MC60, come fa dato il bio. Però quello lì ho visto che rifletta un po', se deve essere staccato qualcosa sul cavo, ma non la giurano a controllarlo. Non mi voglio mettere lì a controllare i microfoni, per carità del cielo. C'è qualche piccola saldatura che è saltata. E quindi ogni tanto dà qualche problema, ma deve essere una cretinata. E lo do insieme all'apparato completo, tanto non mi serve, cioè, ho due di quelli lì che sono formidabili, quelli che ti dicevano la vuoto, come cacchio si chiama, e devo dire che tra qui e che è quello che sto usando adesso, che vanno benissimo, quindi uno è collegato al 2000, l'altro è collegato a questo, poi l'altro, gli altri sono HF Siri, HF, insomma, più piccoli, però sono cazzotti, veramente. Sì, a me non mi serve niente, né microfono, né nulla, ne ho 4, ne ho 60. Se devo provarlo, devo farlo vedere in funzione, non mi serve neanche il cavo di alimentazione, perché il cavo Kenwood, quindi ho il 430, il 440, ho il 780, sono tutti uguali, addirittura anche lì come quello del 756 è l'attacco Kenwood, quindi tranne lo Yaesio che è diverso, capito? Io ho il cavo Yaesio tenuto, quindi non mi serve nulla a me. Ho messo la radio da far vedere, fare due foto, ti interessa questa, tac, ti interessa questa, tac, e solo così puoi darla, altrimenti devi fare l'opzione scatto e spedire fuori e vedere un po' cosa riesci a prendere. No, se si riesce a vendere in Sardegna, capito? Anche in continente, da qualche parte, qualche amico che ho, che ogni tanto ci sentiamo, facciamo anche degli scambi. Più che tenerlo lì, perché alla fine poi sai che Kenwood sono sempre, hanno sempre quella mania, no? Io mi ricordo quando avevo il PS2000, comprato nuovo, ho comprato io Walter Marco, era uscito, quello ce l'avevo comprato la fiera di Novegro a Milano, non me l'ammetto, a Genova, forse a Genova, non so, comunque. Io lo usavo solo in V e in U, capito? Infatti l'avevo dato, avevo preso due gemellini, 275 e 475H, perché era spreccata quella radio, e avevo già altre due HF, quindi alla fine quando mi sono deciso di usarlo in HF e qualche passaggino, l'ho fatto anche in 27, era diventato sordo, come è successo a Vittorio, la stessa cosa. Era partito il Dio lo Zene. È diventata sorda questa radio, sorda, perché non lo so, io non la usavo, neanche F non l'ho mai usata, 50 mega non sapevo manco che esistevano, figurati. Quindi che vuol dire, hanno sempre questa cosa, se la usi e funziona in eterno come queste vecchie carcasse 440 e compagnia, no? Se tu la usi lui è sempre attivo, se non la usi che la tieni spenta 2, 3 mesi, 4 mesi, vai a accendere, non accende neanche più, capito? Se quello di cui parli tu sul 2000 è un difetto nostro, attivano le medie frequenze, che è successo anche a me. E io infatti l'apparato l'ho mandato su a, come si chiamano, Sinesong, quelli lì, no? Che erano già a conoscenza anche del problema, avevano da fare scariche, è sordo, sì è sordo, è in HF, fa queste scariche, ha capito tutto, sono le mie frequenze che c'era difettoso. Ma l'hanno cambiate, adesso è un gioiellino, cioè, l'hanno ovviamente tutto revisionato, eccetera. Poi, niente, sono anche di quello di Vittorio, ma quello di Vittorio già usa il problema del chassis, che trasmette da una parte, lo sentono su 100.000 frequenze, per carità. Tutto lì. No, non lo sapevo, non lo so, anche perché io non è che faccio molte domande, molte cose, però ti ripeto, il mio era diventato sordo, senza nessun problema, nulla, niente, io allora era in attività Guidetti, infatti avevo consultato Marco, era in attività Guidetti, l'avevo mandato da lui e mi aveva cambiato questo Dio lo Zene, così me l'aveva detto, mi era costato un'ottantina di euro senza il trasporto, e lo misi a posto, e poi l'avevo venduto perdendoci naturalmente un sacco di soldi, ma radio che non ho tenuto neanche un anno, e per usare le V, per avere le V e le U separate, avevo preso il 275H al 475H, che ancora ho il 275H, il 475H l'avevo dato a Carlo, come V doppio, e io ho preso l'820H. 820H, 910H, 8, l'altro sempre la Chemod, base, tutti in base, no, la marea anche, Gianfra, Alarvini, la cosa serve a niente, e HF c'ho picco, ma io esco, per le radio, ottima, alla grande, per la 27 c'ho 430, 440, ha voglia che basti, e questo li ha avuto venduto. Vedi tu Gianfra, io te lo sto dicendo, a me non serve niente, a me serve solo la radio, e basta, non mi serve niente, né microfoni, né cavi, né nulla, giù la radio mi serve a me. Faccio due foto, faccio girare, un po', se qualcuno vuole il filmato glielo mandiamo, ma è meglio di tenerla lì e non almeno tenerla accesa, capito, e farci qualche passaggio anche, niente di particolare. Vedere un po' se si riesce a vendere. Nel momento in cui tu riesci ad avere un contatto diverso, decidi di una telefonata, track, e via, si spedisce, però meglio di tenerla lì già fra. Io la penso così, anche perché guarda, io, non mia, di un carissimo amico come te, io ho una HF sempre, che molte volte la uso e la accendo spesso, la faccio andare perché c'è l'antenna commutata, quindi comodo su tutte e tre, due mie e una non mia, e anche da poco che siamo visti abbiamo preso il caffè assieme, ma quando viene vieni da lì, tanto è come che sia a casa, io non ne uso, vieni da lì, e l'ultima volta l'ha vista, ha detto ma questa non è la mia, è la tua, è sempre quella, ha detto porca miseria, è sempre lucida, perfetto. Cosa a me, io ci cammino sopra la radio. No, per farti dicevo, siccome non mi serve l'MC60, io vorrei anche sbaraccare quello, non è che è già di seconda mano, quindi se riesco a imbarcarlo, perché qua non si sta a fare niente, capito? Non mi serve, c'ho già il microfono a tavolo, vanno bene, proprio lo vendo insieme anche all'apparato, anche col suo microfono originale, tutto quanto, qui il piccolo MC60, perché proprio non me lo snuda, capito? Anzi, io ci metto anche il rosmetto, già ci siamo così. Come vuoi, Gianfra, non è un problema. Se era per l'uso, io, se devo usarla la radio e farla vedere funzione, con l'MC60, l'alimentazione diretta, che ti ripeto, chi come che sono uguali, quindi non cambia niente. Come vuoi, lo sai, no? Che problemi non ne abbiamo noi. Se decidi, me lo dici, ci vediamo. Te lo metti in macchina, vengo là al posto del combattimento e me la porto via, la tengo qua io. Dal momento in cui, ti ripeto, c'è un aggancio o prima tu o prima io, facciamo velocissimo, non è che siamo a una Cagliari o una Sassari. O, ti ripeto, è meglio di, perché anche quest'altro amico, non dico chi è, lui a Sassari c'è poco, è sempre fuori e quindi la sto usando io, la sua, va bene così. Chiaro che avere un rapporto di fiducia di cose, ma lo sai, io per la radio sono malato, perché le mie radio sono veramente in ordine, tutte a posto, senza graffie, senza niente, le uso come c'è la mia stanza, nessuno ci mette le mani, quindi vado tranquillamente, senza problemi. Vedi tu, Gianfra, quando decidi mi fai un colpo di telefono, ci vediamo, vediamo insomma di farla fuori, vediamo di farla fuori. Anche ultimamente, vedi, se io avevo quella radio lì con una persona veramente di fiducia alla grande, lui è andato alla fiera di Coso, ultima che hanno fatto, dove era, io l'avrei data. Chiaramente col tuo consenso, con le tue cose vuoi, ecco, tanto, perché addirittura li stavano ritirati, stavano comprando, c'era una banchiera che comprava radio, mi ha telefonato, se mi sei venuto a me, compravano, me ne sono pentito che non gli ho mandato il 780, perché il 780 io non lo sto più usando. Non sto più usando perché ho il 275H, l'820H, quindi uso quelle in V1. Gliel'avrei mandato, e stavano comprando sia radio già di una certa età, comprando con i soldi e te la pagavano, capito? Quindi se l'avessi avuta, magari avresti recuperato già i quattrini. Lo so, vabbè, è così. No, perché ho già chiesto al mio rivenditore, per la radio non c'erano problemi a mandarla, solo che lui non c'ha quello che voglio io, che è una cosa che è appena uscita, hanno presentato fine 2018, però non sono in Germania, ho visto il prezzo e mi è sceso un raio. No, ma questa è però l'ultima che hanno fatto le radio. Forse non hai capito, Cla. A me la radio Kenwood, Yaesu, Icon non mi interessano, non ne compro più di quelle radio, l'unica che ho di quella classe è lo Yaesu, come si chiama, quello digitale, quello dual band, quello 100 di 100, insomma quello lì che costava anche caro, però è un bidone, lo accendo giusto per ascoltare, per fare spazzolata, e neanche a volte. Tutto l'altro è fatto da quello che io chiamo della radio. Le altre sono radio, ma sono radio di un livello, tu pensa, monobanda, io sto parlando, è monobanda, costa 1000, questo che dico io è uscito, costa 1400 euro ed è un monobanda OV, a seconda del modello che prendi. Solo un monobanda, e ti ho detto tutto cosa può essere. Io ho capito, sì, sì. Adesso ti ho afferrato e tu hai quella passione lì. Sì. No, ma Giaffra, effettivamente la realtà è quella, averne tante non serve a niente. Io avevo fatto, immaginate che io avevo il Millone, l'FT1000 D, il Millone, la National Radio da 200 watt, mi era entrato un fulmine e mi ha crepato tutto, 940 quello, un sacco di radio, parte con gli elettromagnetici, computer, rivettature, ballevati, senza danno all'appartamento, come è successo a Fabrizio, era una cosa allucinante. Però ci ho rimesso una barca di su e in quel contesto lì, tramite Walter, l'avevo mandato a riparare dalla CS Song e praticamente avevo detto che era più la riparazione che il costo che la radio si valeva. Walter è riuscito a farmi dare 500 euro così e praticamente ho aggiunto la differenza e ho comprato l'FT1002 appena uscito, bellissima radio, una bella radio, però a me esteticamente non piaceva perché aveva delle cose che non piaceva, però grande ricevitore. Beh, ho fatto cambio, ho dato l'FT1002, mi sono ripreso l'FT950 che tra l'altro l'avevo già avuto. Per dirti, a me se una cosa non piace non sto lì a... e ancora oggi uso quella più il 756 della ICO, capito? Però basta, cioè pazzie non ne faccio più perché intanto non ho quella grande voglia di fare, quindi vanno bene 2HF, le vuole, io ce li ho tutto basico, veicolari, non mi piace veicolare, mi piace macchina e basta, tutto base, vado bene così. L'attività se voglio la faccio, se non voglio non la faccio. Però per dirti, cioè le radio sono a gusti, no? Eppure quella è una delle ultime uscite che aveva fatto la IAS, assieme al 2000, al 3000, al 5000, la prima era il 1200, poi sono andati tutti a salire, capito? Però non mi biazia. Buonasera, sono entrato, ciao, buonasera, mi ha ascoltato? Sì, Claudio, infatti. No, l'unica cosa che purtroppo, cioè ce le ho le due abbastanza belle, ma sono anche datate, la verità, perché sono irraggiungibili come radio, e sono HF entrambi, però sono datate ovviamente. A me piacerebbe averne una HF, ma è ampiamente fuori portata, stiamo parlando, a parte che bisogna richiederle dal mercato asiatico. Ma poi il costo, stiamo parlando anche di 15, 16, 17, quindi sono cose dell'altro mondo. Sì, ciao, buonasera, ben riascoltato. E figurati le mie, cioè stiamo parlando del 275H della ICO che hanno tutti gli arrivatori, lui a toccare a Valca, a Marco, a tutti. Io sempre quello perché è un monobanda da 100 watt con le bande laterali e l'abbinamento fatto con l'820H che è un po' superiore al 475H, capito? Però non sono lì, 820 è uscito dopo, ma siamo lì, anche io ci ho adattato, però sono radio che funzionano molto bene, non creano problemi e hanno un vicetrasmettitore favoloso. Penso che il 275 e il 475H a rispetto del 910H, che praticamente hanno unificato la radio, ma il sistema è sempre quello dei due gemellini, che io ho, tra l'altro, non c'è niente da dire. Uno sistema digitale e l'altro analogico, però io tutte le radio che ho sono al sistema analogico di Smith, ma non mi piace di che legge, non ci vado molto matto. Va bene, Tino, a te il cambio, dai. Cazzo, no, già stavo ascoltando, cazzo, al PC e deve impegnare a fare altro. Diamo però una cortesia, un controllo radio, tu che sei una radio un pochino più distante, vediamo com'è questa modulazione, che ho fatto una modifica al microfono e niente, per contattare anche gli eventuali scontroni. Gianfranco stai dicendo? Gianfranco? Ho avuto l'impressione come di un leggero strappo, che sia in certi momenti leggermente strappata, non vorrei sbagliare, non vorrei essere io che c'è un filtro stretto, blu, no, forse no, non è stretto. Ma non penseresti che Gianfranco sia molto più lontano di me, forse più vicino a te? Ma vabbè, visto un po' magari il segnale, ma immaginavo che era un pochino più distante. No vabbè, l'importante è che non fare saturazione e che non raccolga molta bombetta. No, per me va bene, Gianfranco magari c'è un altro tipo di radio, non so come ti stia ascoltando, vai Gianfranco. Sì, l'ho già detto, mi è sembrato che ci fosse un pochino di strappo su certi punti. Però ripeto, può essere una mia impressione, perché qua non ci vedo neanche come il filtro, ma mi sembra che sia a 6 adesso. Il filtro a 6 c'hai quello largo o quello stretto? La premessa è che ho un po' la gola mezzo infiammata, quindi ci manca un po' rauco io, come la mia abituale. E allora sì, era quello, perché adesso l'ho messo a 9 e non cambia niente, sì, era quello che volevo dire. Quindi non è un problema di radio, è un problema di gola. No, per carità, mi ho preso questo di gola da ieri, cercato di curarlo, ma parlando è, insomma, è stabilizzandosi, però un po' con le trombate, quindi non riesco a farle andare bene che le corde vocali. No, vabbè, volevo sapere così, ma poi chiamano l'altro anche Claudio, che non è più come prima la radio, che non tendeva a saturare un pochino più. Va bene. No, va bene, va bene. Bella corposa, non è eccessiva di amplificazione, va bene, sì. Si sente che c'è un po' di raucedine. Ma anche a me mi sta pizzicando, magari te lo fa, ma anche la me la lamenta, giusto per schiarire un po' la voce, però sento che sta iniziando a raschiare, quindi devo di nuovo uscire dopo, portare il cane, che è tutto da schiattere. Vabbè. Hai capito Gianfra? Quando dici un po' con il citofono, lo sai, no? Quando rientri al lavoro, vediamo un po' se si riesce a combinare qualcosa. È un periodo molto triste, molto molto triste, però vediamo se si riesce a, intanto nel frattempo tu ti muovi diversamente, vedi un pochino, capito? Fatti delle foto magari anche tu, prima di mettere dentro la scatola, in modo che se ti chiedono qualcosa ce l'hai così in foto, la mandi. E niente, insomma, vediamo di agganciare qualcosa. Ok, appena ho 5 minuti di tempo, prima devo riuscire a riuscire, la cosa più importante è riuscire, perché devo riprendere assolutamente ad andare in bici, così almeno finisco l'opera, dato che l'ho iniziata a sfasciarmi la schiena, ma non la sfascio del tutto, così sono contento. E vabbè, tu una vita che c'è in bicicletta, quindi già mi ricordo, tu il tuo carissimo amico che tu è morto, però già ne hai fatto chilometri. Ai, non ti hai preso niente ti? Sì, una bustina, ma giusto per alleviare un po' il dolore. Ma adesso vediamo, se continua, poi vuol dire che metteremo tutta la tacchettina. Ma domani devo fare un lavoro, ma sai, prendere nuovamente freddo e fare un tatto, non tira un filo di aggressore, sempre un posto umido lì, guarda, c'è una cantina, per carità, no, ma poi su dice freddo, non va bene, ho preferito rimandare, se trova bene lunedì, se no, ciccio, vediamo. Voglio tenere un pochino riservato, perché sennò poi quando rientra il grande uomo se dobbiamo fare cose e insomma viene difficoltoso anche questo. Scusa, non ho capito l'altro passaggio, ma hai detto che è morto? No, ho detto fisicamente è morto. E come? Ma è morto o non è morto? Fisicamente va bene, era morto anche da prima. Sì, è continuato a ammazza, capito? Adesso sia mentalmente che fisicamente è sempre più morto. Guarda, io l'ho visto in via Pirandello, che cosa sarà? Forse febbraio? Metà febbraio? Non lo, se non mi saluta lui io non lo stavo riconoscendo. Non lo stavo riconoscendo, tutto gonfio, tutto malitabanza da birretta, da vino sicuramente, non lo so, ma non è quello che conoscevo io per l'età che aveva, bello snello, bello sempre in forma, bello in tira, mi pare un mezzo zingaretto. Soprattutto in tira? Non lo so, vabbè, sarà la mia impressione, ma comunque. Per come l'ho conosciuto io, mi è sembrato un po' che si è lasciato troppo andare, da quando è andato in pensione, da quando ha mollato un po' tutto. Perché non è ancora rientrato, Oti? No, però, vabbè, se tra giorni comunque credo che rientra dopo domani, non lo so, perché ancora non è rientrato, ma le cose si le ha fatte pure. Sì, vabbè, ma tu stai... ci vai tutti i giorni a controllare, sì? Tutti i giorni no, perché c'è anche l'altro, quindi diciamo sono andato ieri e avanti ieri, poi gli altri giorni sì. Ah, quello che abita nel dipendenze? No, non abita lì. Quello che ha il sistema di antenne, perché hai capito. Ah, già ti ho capito. Non sa anch'io, conviene abitare lì, tanto il posto c'è, la decisione c'è tutto, c'è la dependance. È vero, e vabbè, no vabbè, lui molte volte va anche per consumare un po' di ore, ecco, non sapendo cosa fare, nell'attesa che esca la ragazza. Io ma sto va bene dai, va bene, no, me l'aveva detto Mariolino, che appunto l'ho detto, ma me l'aveva detto anche lui, però non sapevo se era già rientrato. Va bene, capito, hai già fra così è, poi quando tutto sembra che vada bene, allora inizia a prendere colpi. Ripeto, per carità, sarà una mia impressione, però io non l'ho visto in grande forma. Io sapevo che andava sempre di lì in quel circo, evidentemente, come dire, andare con le zoppi è diventato zoppo anche lui, no? Io lo so, però... cioè se uno va in pensione sempre etichettato come lui, se lo mangiano la gira di circoli, allora la cosa non va più bene, capito? Perché uno è andare a prendere un caffè, trovare un amico, io non lo faccio tutti i giorni, quando ho 5 minuti passare a trovare gli amici o al bar dove ci siamo sempre trovati eccetera, mi fa anche piacere, ma è chiaro, non mi siedo a giocare a carte o stare lì tutto il male davanti a semana, passo, saluto, prendo un caffè, due chiacchiere, una sigaretta, ciao raga, io devo andare e vado via. Se lui è il suo modo di passare la giornata, penso che stia facendo male a se stesso, perché ripeto, ribadisco, io non l'ho visto bene, lui sarà per la mia impressione, forse tanti anni che non lo vedevo, però non l'ho visto bene, me lo ricordo molto ma molto diverso. Ho detto, se non mi salutava lui, io manco mi ero accorto, manco non lo stavo riconoscendo, quindi la fisionomia è quella, non è che sono così rincoglionito, non lo stavo riconoscendo assolutamente. Ho cambiato totalmente di viso, è molto più grasso, molto più messo male, ecco. chiudiamo la parentesi. Vai Tino. Vabbè, ma questo è perché è un periodo un po' così, adesso ci mettiamo anche noi a regime, perché sai, parlo Pasquetta, dopo Pasquetta, insomma, bisogna bisogna metterci nuovamente a regime. E niente, stiamo ascoltando con tanti che ha intenzione di buttare giù la marana quando fa bello a disposizione, non sai, se sono libero non c'è problema. Noi invece sto dando quel medio impianto che praticamente ho comprato dopo tanti sacrifici e non ho mai più fatto, effettivamente, per realizzare qualcosa di piccolino però efficiente. Il limite che lo fa, vedere la massa ideale, ma anche delle foto si riesce a farlo fuori, che non so, magari nell'altra isola, riuscendo così a spedire il tutto e fare una sorta di baracco. Se si riesce, dai. Ma quella roba che mi hai fatto vedere giù a me, quella lì? Quella roba che avevo preso, che poi non ho utilizzato, dottore e quant'altro. Mamma mia, sì. Fate Gabigiano, quello che ho visto ieri è una cosa impressionante. Impressionante, fortunatamente, lo ribadisco e lo dico tranquillamente a voce alta. Fortunatamente quel lavoro l'ha fatto Fabrizio. Se l'avessi fatto io, questo era già tutto in terra. Perché le staffe le ha fatte lui, a tirafondi, forati nel cemento armato, tutti lì per i tiranti li ha messi tutti lui, ha fatto tutto, praticamente l'hanno fatta lui. Mi sembra che l'ha fatto tutto lui, se no mai sarebbe caduto tutto per terra. Ha tenuto in una maniera allucinante, però non ci dormiti, quando c'è tempo brutto non ci dormi con una cosa del genere, non ci dormi. E tu già sei un po' più riparato, più puoi fare un sistema molto, molto più tranquillo, sereno, ma io gioco a 45 metri. Quello che ho visto ieri, guarda, allucinante, lo stavo spiegando a Gianfranco, sì, sì. Adesso vediamo, Massimiliano è in ferie, se per fine settimana, qua ci vuole un'oretta, neanche, e tu a dirlo che a farlo, e tu a dirlo che a farlo, ti ricordo l'hai tirata su tu con Luca, adesso la stessa manovra bisogna abbassarla, basta, una volta che è abbassata io ce l'ho ad altezza d'uomo, allora piano piano me la smonto, però già sono tranquillo perché è bassa, capito? Una volta che è bassa, anche se non la smonto, la lascio ferma, puntata a nord, stringo tutto e si abbiglia il culo, ma così alta no, così alta ho visto una cosa allucinante, cioè il tubo che c'era, hai visto quanto è grosso, il master, cioè flettere assieme all'antenna verticale, ha detto sì. Sì, si cacca, fortunatamente ti rispetto, chi l'ha fatto è un professionista, perché il master mio è un tubo zingato innocente, quindi non penso che il vento lo pieghi, ma se ci fosse stato un tubo leggero l'antenna sarebbe stata lasinata, avrei fatto un sacco di danni. Quindi niente, ho deciso di abbassare tutto, togliere tutto e sacca bisano. Continuo con la filare che ho. Magari aggiungo anche la filare degli 80 perché non ce l'ho, ma farò l'Europa, farò, ma a livello locale non me ne frega niente, parlo tranquillamente e è un casino, avere impianti così è un casino, soprattutto ad altezze così macrodontiche, però veramente sono contento perché veramente è montato la regola d'arte. Non ci sono dubbi, sì. Sì, sì. Poi rilascio il mic, no, il problema mio è che ho comprato, ho conservato, ho fatto sacrifici per poter comprare un pezzo oggi, un pezzo domani, poi alla fine dei conti ho detto, ma che cavolo lo so fare, devo fare altre cose più importanti. E niente, non mi interessa, sono, credo che due staffe già le sappia piazzare anche io, dai, non è che, però non mi interessa, poi qua seccare, le passa la tua, no, la tua vabbè è un po' più, giustamente, essendo lo stesso locale, seccare fa tanto, per carità, però dal momento che si fa un lavoro così complicato e deve essere consistente anche un po' il tutto, ecco, sia a prescindere dalle antenne che dai tiranti e che da altre cose. Va bene. Riprendi. sì, in effetti è troppo oneroso avere installazioni grandi, perché poi è un macello. Poi in ogni caso tenete presente che questo tempo non è più una cosa eccezionale, ma sarà sempre, a tutti gli aspetti andrà sempre peggio, perché già lo sapete cosa sta succedendo, quindi non c'è da nutrire grandi speranze su questo clima. Una specificazione, una nota, Claudio, io non dicevo che frequentasse come si dice i circoli, lui gestiva un circolo, che è una cosa diversa, capito? Quindi è sempre per il suo motivo e ci ha sempre avuto, cioè il Dinina, tutto lì, non era una questione che andava bene, era una questione che andava lì nel circolo che c'era di lì dietro, dove era, dove c'è il collocamento, credo, in quella zona lì, ma non come, proprio come gestione, diciamo così, aiutava nella gestione. Addirittura, bene, anche lo sapevo io. Neanche lo sapevo. E vabbè, problemi suoi sono, ripeto. Non sono cose che mi competono. Io ribadisco, se devo andare a trovare uno, ovunque sia, circolo, Mario, vado, lo trovo. Due chiacchiere e poi vado via, ma stare buttato così a me non piace più. Non mi interessa. Sì, sì. È così, va bene, va bene. Ma quella roba è vendibilissima, io non le doti, perché se dovessi cambiare idea e fare un sistemino non molto alto in campagna mi rimetto tutto, ma qua le tolgo, perché ho già superato diversi ostacoli e quindi non vorrei che non c'è due senza il tre. La prima volta una bella maestralata mi aveva sgranato il rotore, rimesso a posto, una seconda un libeccio, a libeccio rischiato perché si erano sganciati due anelli del Bicom non messi bene, naturalmente colpa mia perché l'inesperienza, ho sbagliato a non chiuderli bene col cavallotto, si sono sganciati e ho rischiato che si piegasse il tubo. Invece adesso che è tutto in ordine, tutto a posto, ho superato il terzo ostacolo, che questo scirocco fortissimo, però ti ripeto, non c'è due senza il tre. Non è questo posto da mettere così, dove sono io, sistemi del genere, preferisco lavorare con le filari e basta. E avere la solita 510, che quella non fa niente, con palo che c'è stesso da 4 metri più che sufficiente, vabbè, ma le tolgo. Se dovessi andare in porto, se sei libero, ti avviso, giusto per la sicurezza, capito? Perché con te non ci vediamo, la sicurezza, avete braccia, avete forza, io mollo, voi una volta che l'abbassate, che mantenete il peso a scendere, una fesseria, e lo lasciamo così. E io piano piano ho tutta l'estate per potermela smontare e rimetterle a posto. Capito? Tutto qua. Va bene, riprenditi. Scusate, no, cazzo, la bassa. E io, KK. Che ore sono? Che ora si è fatta? Il mio cagnone è ancora coricato, però sono già le... Che ora è lei? Le 8:20 siamo. E già fa. Io inizio a prepararmi, Datemi due minuti. Ok? Ok, intanto io mi sto guardando un filmato di quella del mio desiderio, dai, di quella radio che ti dicevo. Quanto è bella. Buttati a capofitto, dai, tanto se non le facciamo adesso queste cose le facciamo più. Poi ti ripeto, quando vuoi. Un colpo di telefono, a me serve solo la radio, non mi serve altro. Faccio due foto, due filmati, accesa, spenta, inizio a farla girare, vediamo se, se si può fare. E nel frattempo, visto che ce l'hai lì, non mi costa niente commutare da una radio all'altra e usarla, cioè farla andare, tenerla accesa almeno, come sto facendo con quella di questo mio, amico Radio Macor. Capito? Non ti posso dire. Io se non avessi avuto, per dire, quelle che ho, te l'avrei anche presa, non è un problema, però ho già fra, ne ho già due, più una che non è mia, ne ho tre, perciò HF basta, no? Non ne compro più, non ne compro più perché io non chiamo HF per Icom, Iaeso, eccetera, ma può essere anche un HF 440 e 430 a livello di... Così vi fai due chiacchiere, ma per me sono baracchini a sintonia continua, quindi non li chiamo neanche HF, avendo quello che ho, però potrei anche usare quello, per dire. Quindi alla fine ne ho quattro di nuovo di HF, capito? Vedi un po', fammi sapere tu, lo sai che problemi, per te non ne ho, quello che riusciamo a fare facciamo, e se no si rimette dentro la scatola e si tiene lì, cosa vuoi dire? Beh, mi allontano un attimo che mi preparo, mi vesto così, mi organizzo per portare il cane, ok? Sono in pigiama, ci sentiamo tra un attimino. Ok, va bene, ma comunque io sto guardando il filmato del mio desiderio, non di quella che c'ho già, che questa che sto guardando sembra un baracchino, ma se mi sentono mi picchiano. Un baracchino che di baracchini ne usciranno, quattro, quanti ne usciranno i baracchini da prezzo di questo attrezzo? Una cinquantina, un centinaio forse, anche, senza accessori, con gli accessori forse anche 200-300. Lo so, lo so, sì, ma già capito di cosa stai parlando, già. Sono le tue esigenze, le tue passioni, quindi ti ho già capito. Va bene, Tino, anche per te un attimo che mi preparo, così sono pronto a portare il cane. Ci sentiamo tra un attimo. Quando vuoi, già fra, il telefono è sempre acceso, ok? Scusate, avevo una bassa, quindi ho dovuto mollare. Vabbè, già, io sono qua. Ehi, Atti, che mi preparo, così mi organizzo per il cane, due minuti. Ok, anch'io sono in ascolto, finché mi chiamo per la cena. Gappa gappa. Va bene, già fra, dai, non c'è problema. Siamo qua, tanto sono al PC e ogni tanto vedo un po' ascolto tra la radio. D'accordo, ci sentiamo allora. Sì, no, in che zona sei tu, per curiosità? Allora, io sono uscito la Veloce per andare verso Platamona. Dalle parti della destra del rifornito, ecco, per capirci. Ah, ho capito, sì. Quindi, a destra, quindi campagna anche tu. Sì, sì, purtroppo sono un po' basso, però diciamo che mi fa sentire. Sì, direi un saliscendi, ci sono delle zone che sono belle però, perché essendo saliscendi se ti capita la collinetta, insomma, non va male. Diciamo che io faccio tutta la salita, dopodiché un pezzo di pianura e poi va a scendere, io sono in quel pezzo lì, diciamo, quindi non vedo la Veloce, se non sarebbe stato l'ideale. Ah, ho capito. Beh, siamo comunque discretamente, tra virgolette, sempre lontani, perché Claudio dovrebbe essere molto più vicino di sì. Io sono sulla strada di Uri, quindi ti puoi immaginare. Esattamente. Dunque, c'è cioè, presente Molaffa, ecco, io sono più in alto di Molaffa. Molto più in alto, ovviamente. Ho capito. E lì quando arrivo, rendo conto che sto usando circa 8-10 watt, non è che un apparecchietto da... così, da macchina, sto utilizzando un presidente. Ora. Dunque, il segnale è oscillante nel senso che se parli a voce bassa è attestato su 9, R5 ovviamente, se invece aumenti poco come tonalità di voce passi anche a 9,20, quindi c'è questo picco che a volte c'è, a volte non c'è. Allora, diciamo che non mi posso lamentare, pensavo peggio. Non direi, infatti il segnale è buono, come segnale. Latte dolce, io perlomeno latte dolce vedo i grattacieli, da qua vedo, quindi in teoria dovrei vedere anche il fornitore, anche se ci sono i palazzi, quindi vedere quei palazzi lì. Io Sassa la vedo tutta. Magari arrivo basso io sicuramente. Guarda, ti posso dare un S7 perché questo è un magari accendo l'altro, qualcosina in più c'è, qua mi dai un segnale di 7, radio 5. Guarda, io sto andando, vediamo un po' se ci vedo, e qua saranno neanche 8 watt. Vabbè, che antenna stai utilizzando? La Game Master immersa negli alberi, sì, esatto, immersa negli alberi di pino, poi ti raccomando, quindi di quei 10 watt, 8-10 watt, almeno 3 watt se li ciucciamo gli alberi. È vero, bisogna insomma, mettere una cosina di più performante, diciamo. No, io vabbè, sono, diciamo che ho esagerato una decina di metri di palo più l'antenna. Beh, diciamo che l'antenna è la Game Master, quindi è abbastanza alta. C'è un palo di quant'è? Aspetta, lo calco, sono un palo di 8 metri e l'antenna sopra. Quindi se spunta gli alberi spunta un pochino, perché gli alberi purtroppo sono molto alti e creano non pochi problemi. Certo, se l'avrei messa sul traliccio che 10 metri il discorso cambiava, ovviamente più il tubo potrebbe stare a 15 metri tranquillamente, però non ne ho voglia, troppo pericoloso, troppi impegni, troppo di tutto. Infatti, come stavo dicendo a Claudio, anch'io abbasso tutto quanto a livelli più terrancoli, più raggiungibili per noi vecchietti, da. E poi niente, l'antenna fa molto bene, devo dire, l'ho provata qualche giorno fa per fare dei test d'apparato e cacchio, senza niente se ne va da 25 fino a oltre 30 con un eccellente accordo. La sensibilità è eccezionale, perché anche poco fa stavo ascoltando il sottoceano dei russi, quindi insomma va, l'antenna va. Sì, la conosco. No, io ho intenzione di cambiarla, ma poi ho visto che sta ancora andando alla grande, però chi me lo fa fare a me, fare tutto il lavoro per cui, guarda, siamo 4 gatti, quindi non c'è più la flusso di una volta, che io non vedevo altro antenne nascere come funghi, almeno per quanto riguarda la Teologia, c'è la una bella rotta, tanti anni fa, adesso vabbè, la tecnologia ci ha superato, quindi continua a superarci. Ti faccio un passaggio con un'altra radio, sempre un veicolare, però un po' aiutato, e così mi dai una sostanza di quanto può prevalere uno con l'altro, e il cambiamento di radio, anche tenendo presente che i microfoni sono dei similari, la radio è un 48 anziché un 10, così vediamo un pochino chi prevale. Allora, ecco qua, questa è l'altra radio. la prima che ho avuto è quando ho iniziato da CB, diciamo, la voce. Come saranno questa? La radio era molto più bella quella di prima. Il segnale qua è 920 fisso, quindi senza oscillazioni come quella di prima. Quindi evidentemente è molto più potente. La radio però, dovendola confrontare, direi che questa fa l'ascamo e quella là invece è molto buona, perché come se fosse imbottigliata, una cosa del genere. Sì, infatti, vabbè, guarda, questa è la sua normale, dovrebbe essere anche più basso il segnale. Sì, adesso è 9 ed è praticamente identica all'altra. Quello mi interessava, perché i microfoni sono simili adesso all'altro, cioè questo l'ha aiutato, l'ho dovuto staccare, più che altro. Ma vabbè, questo è normale, 5 watt, quindi. Però va bene. L'antenna cos'è? Una Mantova 1? Sì, è una Mantova 1. Prima di avere la Game Master, infatti la scaffola lì, ma da portare su con quel tubo era troppo pesante e poi era troppo vecchia, c'era 30 anni già, e quindi l'ho dovuta congedare, anche perché non riuscivo più a smontarla, perché era tutta attaccata, l'alluminio è diventato tutt'uno. Ma io guarda, ne ho cambiato una, che però purtroppo per via della solsigne, diciamo, mi ha mangiato l'attacco del PL, quindi l'ho dovuto scendere, ripristinare un pochino, e poi invece mi è capitata una Mantova nuova, e allora ho usato il mio stilo che era nuovo, e la parte della cella spirale l'ho messo praticamente tutta nuova, è uscita. Ma ti parlo che questa qua ce l'ho dall'88, quindi la sua strada l'ha fatta. Sì, antenne eccezionali. Io volevo fare una prova, ma mi sa che se provo non mi senti nemmeno. Volevo passare su un dipolo, ma probabilmente c'è anche stazionaria. Faccio la prova e vediamo cosa succede, com'era per commutare, vediamo un po'. Ho commutato, mi senti, 1, 2, 3, prova. Sì, ho voglia, ti ascolto, S4, R5, va bene. Sì, qua non vedo il tubo. Commutato, sono di nuovo passato lì, volevo provare la numero, ma non ci capisco, guarda, non ci capisco più un tubo di questo attrezzo, quindi cambia antenna, però devo passare, non posso commutare automaticamente, un attimino. Prova, sono sempre qua. Prova, ecco, dunque, questa non so cosa sia, è una verticale che è stata a terra. Cacchio, quanto è stazionario? No, non è stazionario. Così. No, non è. Mi senti? Sì, già fatto. Ti ascolto, è lo stesso segnale radio di poc'anzi, di quando eri col dipolo. Non me lo aspettavo, perché è al piano di terra proprio questa. Un'antenna che deve stare attaccata a terra. No, anzi, so per quanto è l'altro dipolo. C'è più un tubo di questo. Sì, no, questo è un altro dipolo, è un dipolo secondario. Adesso passo su una verticale, vediamo un po'. Ecco, adesso c'è un'altra verticale che è al piano di terra. Questa ha aumentato qualcosa o sempre la stessa? No, non ha cambiato niente. Sempre S4. Sì, sempre così. Aspetta, ecco, come ho fatto, sono passato adesso sulla Game Master, è inevitabile perché sì, sono antenne da distanza, non sono antenne da vicinanza. Sì, no, io, per dire la verità, ho un dipolo che utilizzando vari apparecchi, quindi un'entrata gravando con varie radio, giusto per non farvi sempre attaccare, attaccare, e purtroppo ho dovuto mettere in parcheggio il dipolo, se no se avrei ascoltato anche magari migliore. Beh, sì, sicuramente la polarizzazione conta molto. Mamma mia, voglio fare un tentativo, ma c'ho paura di far saltare tutto in aria. Un attimino, devo controllare un alimentatore a quanto sta andando. Se guardi anche questo me lo vendo, perché mi fa un po' paura, questo arriva a 30 ampere, cioè volevo dire 50 ampere, 30 volt. Questo come si accendeva? Non mi ricordo più, figurati quanto vi uso questa razza. Beh sì, lo stai vendendo l'alimentatore? Per adesso no, ma non escludo che lo venda. Se riesco a capire come funziona. Quindi io premuto di lì, quindi sono premuto di lì, praticamente devo commutare e dopo che mi si bruca tutto. Prova, speriamo io, va. Se mi ricordo com'era, quindi devo premere di lì, ci provo, speriamo bene, toccando ferro, solo che mi fa saltare, ma ci provo, aspetta, che devo mollare, 1, 2, 3, prova, come sta andando? Mi senti adesso, ha aumentato qualcosa? No, il segnale è rimasto sempre subito, ma si è andato molto in saturazione, come che non ho... la radio te l'ha proprio mangiata, eh? Addirittura. Non ti dico quanto sono, se non ti spaventi, c'è impossibile arrivare così basso. Guarda, non fa male come dovrebbe andare allora, eh? C'è qualcosa che non va, perché segnale 6-7 sempre, e la radio se la sta mangiando. Sì, è normale, va in saturazione, perché è troppo. Un attimino mi devo allontanare, un attimino vedere com'è la situazione dalla magnetica. Ok, sono apparecchio. Anche io ne approfitto a cambiare due cose, così poi facciamo un altro con te. Che è? Rieccomi. Sì, non ci sei, sì? Sì, sono qua. Hai fatto qualche fischietto? Sì, ho sentito un fischio anch'io, ma... provo a parlare un attimino, devo vedere una cosa, che non mi ricordo che cavolo di antenna ci ho messo in questa altra radio. Il fatto che non mi ricordo... aspetta, devo cambiare antenna. Oh, ecco qua, adesso va meglio. Adesso c'è un'antenna, ma... sì, lo sentivo da te, il fischietto. Ecco qua. Ora ci sono, sì? Sì, ci sei, un po' troppo amplificato. Troppo amplificato, se l'ho abbassata, eh? Lui non possiamo meglio. È sempre la stessa, mi sembra che non è cambiato neanche. Allora, aspetta, abbassiamo. Vedi un po', 1, 2, 3, prova. È troppa amplificazione perché sento i rumori dalla stanza, capito? Non so se stai muovendo la sedia o come addirittura premi il microfono. Ok, guarda adesso ho abbassato ancora, vediamo un attimino, aspetta, proviamolo così, così ho abbassato ancora ulteriormente. Guarda, la radio va bene in se stessa, però va bene in un ambiente in cui non ci sono rumori. Io sento che c'è acceso qualcosa, un televisore, una radio, non so, quella si sente discretamente forte. Ho capito, c'è un telefonino che sta andando, un video, quindi lo stanno guardando in un'altra stanza addirittura. Ho capito, e il segnale è aumentato? Poco meno del 920. Ho capito, vabbè, però non è più satura come prima, non sta attrappando. No, non sta attrappando adesso. Sta... non capisco un di questi picchi. Già metto un'altra. No, ho messo un aiutino in quell'altro per prima che hai sentito, diciamo, che andava troppo in saturazione. E questo invece è normale. Anche questo quando è aperto ho sentito delle voci, mi ha sembrato la voce di una signorina. Sì, di mia moglie che sta bisticciando col figlio. Questi microfoni amplificati sono un po' una disgrazia, tutto lì. Vabbè, ma io adesso non c'è rumore, però poco non c'è rumore. Tra pentole e pentoline non c'è rumore. Guarda, non ho capito niente. Ho sentito solo barattoli, presumo d'alluminio anche, che si muovevano. C'hanno una bella voce e molto alta quei barattoli. Lo so, è in fase di preparazione per la cena, quindi ho dovuto sbattere i piatti. No, il mio problema è che sono in una sala, no? La zona radio è in un angolo e quindi non ho più... Prima avevo la stanza, ma poi con la presenza di un bambino, quindi abbiamo dato la stanza le priorità. Mi sono accampato, diciamo, un po' qua, quindi non ho una stanza mia per mettere la strumentazione amplificata da una parte. Ecco. Tu figurati che proprio per quegli ambienti io ho qua... Attualmente sono quattro microfoni, sono tutti palmari, e sempre volendo, in realtà non sono dei preamplificati, sono preparati particolari e riescono a escludere totalmente i rumori di fondo, pur dando una voce molto molto potente. Hanno anche un sistema di guadagno particolare. Figurati che queste radio si usano in elicottero, in aereo, in tutti quei sistemi lì dove di norma ci sono dei rumori anche di una certa intensità, però si capiscono sempre, la voce passa sempre e i rumori vengono attenuati. E sono tutti da palmo al condensatore, però si possono mettere anche sott'acqua fino a 2 metri di profondità, quindi ti ho detto tutto cosa sono. Niente a che vedere con questa cosa che ho io. L'unica pecca che c'hanno è che non si possono aprire, o meglio li puoi aprire, però devi stare molto molto attento perché c'hanno, non che devono andare in acqua, però c'hanno le guarnizioni tipo idrauliche, no? In teoria ogni volta che lo apri dovresti cambiare tutte le guarnizioni per renderli, come si dice, impermeabili di nuovo, o meglio subacquei. Ma c'è anche una radio HF che è lo stesso, che si mette su spalla, no? Da 0 a 30. Si innesta l'antenna, c'è un antennone proprio di dovrebbe essere 2 metri d'antenna che accordi dappertutto. E anche quello è tutto guarnizioni, tutto tappo in gomma, è micidiale. Ho capito. Va bene, vedi qua questa radio si Santiago 9, quindi è una cosa un pochino più seria. Anche se con questi apparecchi, mamma mia. Faccio una prova, guarda il picco, se è negativo o positivo. Importante, lascia un po' la portante. Adesso fischio un po' così te ne accorgi. Non che so tanto. Sì, è tutto positivo. Non è fortissimo, però va in positivo. Ah, no, a sapere, qua fa il negativo, invece, perché ho i misuratori che dovrebbero essere discreti, ne ho uno per le altre, uno, adesso sto usando il CN801, quello a raghi incrociati, qui c'è anche il 901, ma quello è per... quello non lo ricordo, non c'è un PMS. Di Ferrari ce n'è un bel, però inizia a darmi fastidio perché neanche io ci capisco niente. Bello, bello. A me sono cose che fin da piccolo sono sempre piaciute, sto cercando pian piano di, anche se non li utilizzi tutti, però è giusto per averli ogni tanto, gli attacchi, le fai. Io tu pensa che non ho grandi apparecchiature, per carità, però è una cosa... un po' la tazza, no? Qualcosa di tipo del SOAT 23 canali, un Ruiz lo stesso, 40 canali, però sono cose che mi piacciono averle usate, poi insomma la radio, ma, diciamo, migliore che è questa qua che sto utilizzando, le altre sono tutte radioline vecchie CB veicolari, ecco. Eppure spesso ti dirò, la roba che c'ha l'aspetta è come il vino, no? Quando sta tanti anni dentro la botte spesso scopri che è il migliore di quelli nuovi. Io ho qua un ricevitore che è l'ICI, come diavolo si chiama, ICR71 dovrebbe essere, che quando l'attacchi in ascolto è veramente una cosa spettacolare, proprio senti quello che devi sentire, lo senti bene, chiaro, non ti stanca, ed è un eccellente ricevitore, nonostante l'età, oramai c'ha, quanto ci avrà questo detto, a occhio e croce ci avrà forse una trentina d'anni, più o meno. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Sono i migliori, sono i migliori quelli lì, lo so, però io li ho dovuti mollare quelli. Va bene, ti ringrazio un mic, che mi devo allontanare, ma mi devo allontanare un attimino per cause di carica, quindi devo mollare un attimino. Va bene, Giacomo. Sì, ok, anche a me mi hanno chiamato, infatti, faccio entrare la chiamata, dopodiché anche io scappo a cena. Avanti, buonasera Franco, o meglio Gianfranco, per la tua intera, Alfa Bravo, compagnia di Tino. Ciao Gianfranco, ben ascoltato, anche a Tino, sono Gianni dalla stazione. Bene, veda, no, ho acceso poco fa, ho sentito che c'era borbottio e allora mi sono fermato un attimo. E quindi siete di carica, così è? Sì, ci siamo trattenuti un po', c'era anche Claudio che è andato a portare il cane, magari adesso rientra, però a me mi hanno chiamato già e adesso devo scappare via. Ma arrivi abbastanza bene, devo dire, anche tu 9:15, 9:20, a seconda del picco. E la radio va abbastanza bene. Bene Meda, grazie mille per il referto, sono contento. Ho messo una boomerang alcuni giorni fa e niente, vedo che sta andando bene. Dai, ti lascio alla tua carica e eventualmente ci si aggiorna, ok? Grazie mille. Ok, ti confermi, dovresti essere zona stazione, giusto? Sì, zona stazione ferroviaria. Ah, ecco, quindi già sta funzionando anche l'elevatore. Sì, comunque siamo, non dico linea ottica, ma quasi. Va bene, buona cena anche a te se devi andare a cena. Alle prossime. Ok, capa, ricambiato. Bene, bello, ciao Gianni, ci sentiamo dopo, se coincide, mi devo contare. Andà bene, no problem, andate. Ciao Tino, ci sentiamo alle prossime. Buonasera, buona cena, buona serata a tutti. Ciao capa, ciao. capisci mi te piace, ma a volte non la giurare a manco di entrare in bagno. ti capisco, perché vabbè, col passare del tempo i bisogni cambiano, quindi le necessità si evolvono col passare del tempo, quindi è umano, è comprensibile, ti capisco, perché insomma ci stiamo dentro tutti, quindi voglio dire, non mi sta dicendo niente di nuovo, quindi è così, quindi praticamente sotto casa tua ha fatto un po' di casino il vento, no? Sì, a casa, qua nel giardino di casa a Carbonazzi, anche in campagna, è avuto un eucalipto, ma non molto grande, però è andato a prendere proprio il braccio del cancello elettrico montato a poco, l'ha piegato, quindi sicuramente vuole cambiato. Ma se mai mio vicino che chiama la FAP, vediamo se lo cambia. No, beh. E qua invece a Carbonazzi ha fatto due alberi, uno la settimana scorsa e uno l'ha buttato giù il vento questo sciocco, e anche lì ha fatto piegato i bracci del cancello, ha rotto tutta la siepe d'ingresso, un lato ne ha buttato giù una bella palma che c'era, palma un tronchetto della felicità, molto bello, ha fatto un po' di casino, due lampioni, e dove vuoi va? No vabbè, pazienza, abbiamo rimesso a posto, adesso domani se non piove, mi ha dato acqua anche domani, cazzo, boh. Non ce ne voglio bene, un chitabrini. Sì, ho visto su internet che ce n'è ancora per qualche giorno di acqua, ne ha messo domani e forse dopodomani, insomma, comunque diciamo che a aprile dovrebbe finire con questa variabilità, le cose non è che dovrebbero migliorare tantissimo, vabbè, questo è quello che si dice, poi vediamo un po' cosa succede. Meno male che non sono state coinvolte persone, poi il resto vabbè, anche se rompe le balle già si sistema. Meno male che non ci sono cristiani di mezzo, dai. No, fortunatamente no, però tutto è scatto. Ho dovuto tagliare tutto, mettere a posto, pulire, fare. Infatti non ho preso una bustina che ci ho buttato l'olio. Oh, via. Con anche la testa, al collo. Io soffro cervicale, quindi ho preso freddo stamattina, stavo anche più vigilante. E vabbè, oggi vi faccia, purtroppo è così, vabbè, si abbia veloci. Ho visto anch'io su internet che domani ci sono due barre celesti di acqua, velocità del vento 16 km all'ora, quindi il vento non c'è, praticamente c'è ma non c'è, rispetto agli altri giorni, e l'umidità è al 71%, quindi c'è una giornata di merda come oggi, vabbè. Speriamo che arrivi il tempo bello, non dico il caldo afoso, ma insomma che vada via questo aprile che non ha fatto così tempo bello, che arrivi maggio ci dia un po' di sole, delle giornate ventilate anche belle, ma cazzo che la smetta di piovere, ha rotto le palle. Cos'era? A marzo che hanno fatto quelle due settimane di bel tempo, anche la temperatura era abbastanza gradevole, sono state due belle settimane di bel tempo, bel sole, e poi infatti sono arrivati gli schiaffoni adesso, ragazzi. Infatti, al contrario, no, cazzo, prima, aspetta che sto montando, ma già mi senti lo stesso. Ho detto prima, al contrario, cioè, prima la marzo, no, fratello, prima il sole, poi l'ombrello. Aprile, non ti scoprire, invece era lì, abbiamo visto che marzo ha fatto alcuni stralci di estate, ad aprile aveva un freddo, guarda io ho portato un campo, lo faccio con il giubbotto invernale, di solito io di questo periodo scendevo anche a maniche corte giù, ma un giubbotto invernale, capito? Ma è un freddo che ti vada la zamba qua in alto. Sì, sì, è cambiato tantissimo rispetto a svariate settimane fa. Ti ripeto, io sono molto meteoropatico, quindi le giornate così mi abbattono, capito? Mi scaricano invece di caricarmi, quindi mi prendono male. Infatti speriamo, mi auguro che cambi, che il tempo sì, insomma, inizi a girare meglio, dai. No, a me a volte il caldo, l'estate molto calda, a me mi si abbassa la pressione, capito? Infatti fumo molto meno, prendo meno caffè, a volte delle belle bibitazioni di acqua zuccherata, capito? Infatti io soffro molto il caldo. Soffro molto il caldo, non è che sudo molto, però mi manca la renomi, come si dice a Sassi. Mi piacerebbe un'estate tipo settembrina, no? Sai, che non fa quel caldo afoso, ma gli anni passati che c'è stato quell'afa a luglio, agosto, molto, troppo caldo, abbiamo superato i 40 gradi. Io mi ricordo, ho passato un'estate bruttissima, soprattutto anche al lavoro, perché stavo molto in macchina per seguire tutti gli impianti e stavo con l'aria condizionata praticamente dalla mattina sino a quando rientravo a casa, e quando rientravo a casa ero muto nel garage, sembrava un robot, cazzo, mi sedevo nella sedia e non riuscivo più a alzarmi perché era talmente il freddo che avevo preso, che avevo nelle ossa. Col poi il cambio di temperatura esterna praticamente mi massacrava, capito? Quindi mi ricordo quell'anno sono stato molto molto male. E poi anche quando esci, io, mia moglie si incazzava perché io quell'anno lì praticamente ero sempre in pantaloncini, ciabatte e maglietta, boh. Dice, ma se andiamo a fare la spesa, non me ne affutti nulla, io c'ho caldo, pantaloncini, ciabatte e maglietta, ma lo già me ne affutti, già una cazzo in cravatta a fare il pigia. Sì, ti capisco, no? Tutti, guarda, senza andare molto lontano, 2017, l'estate del 2017 ha fatto quel caldo che stavi dicendo tu, me lo ricordo benissimo. Tra l'altro ha piovuto pochissimo quell'anno, me lo ricordo, che ero giù in campagna, e quindi ha piovuto pochissimo e poi l'estate è stata veramente torrida, cioè proprio giù si schiattava, quindi mi ricordo benissimo a cosa ti stai riferendo. Sì, ma proprio mi manca la reno, tu immaginati, io qua vabbè, è una casa molto fresca, cresciuta da gradiere, quindi l'estate tiene aperte le finestre del salone con quelle delle camere da letto, gira bell'aria, c'è molto fresco la verità. Ma l'anno scorso in campagna ho passato qualche nottata, così buiaccia, è una vera da morire il gas. Infatti non sono più andato a dormire, assolutamente. Stavo lì durante la giornata e poi mi rientravo a casa, ce la trovavamo a casa con mia moglie, capito? No, questa è molto più fresca. C'è molto fresco qua, anche perché c'è un giardino enorme all'interno dove sono tutti i parcheggi per le macchine, è tutto alberato, l'estate c'è un verde micidiale. Io sono adesso, prima ero in alto, adesso sono al secondo piano, quindi sono molto attenuato come sole, come calore, eccetera, capito? E ti dico che non si sta male. Io, se potrei uscire in costume, ciabatte e a petto nudo d'estate, sarei sempre così, anche per la strada, ma purtroppo non si può. Sarebbe ideale, però insomma le buone norme dicono questo, quindi bisogna adattarsi, cosa ci vuoi fare? Vabbè, io mi stavo abituando bene alla campagna e insomma il fatto di rientrare a Sassari mi ha un po' segato le gambe, diciamo che adesso che mi ci ho fatto la bocca ritornare a tra virgolette ai suoni ai ritmi della città, se così la volevo chiamare, insomma non è stato così simpatico, là. E quindi certo che mi ripiacerebbe quel tipo di tranquillità, perché come stavamo dicendo prima, no? Sai, col passare degli anni cambiano i bisogni, cambiano le necessità, e veramente adesso certe cose proprio non ce la faccio più a sopportarle. Quindi la campagna ha questo lato positivo, insomma, che determinate cose proprio il distacco dai rumori, insomma già il rumore a me adesso da un po' di tempo a questa parte sono diventato abbastanza sensibile. Lo so che sembra un paradosso, visto che ho lavorato sempre in mezzo al casino, alla musica, ai concerti, queste cose così, però adesso anche parlare con le persone, se alzano il tono della voce già mi dà fastidio, quindi stiamo parlando di, vabbè, è una cosa tutta mia, però ti ripeto, la campagna mi ha folgorato, dai, e quindi appena ne ho possibilità cercherò di spostarmi, perché qua non fa. Al contrario di me, sì, io sono 50-50 o già, mia moglie proprio non li ha fatti nulla, nel senso che non la interessa. Guarda, noi siamo andati a Pasqua, a Pasquetta, a Prato, ma ho cercato di farla rimanere per il momento, no, non la interessa. Quindi diciamo 50-50, a me piace perché sei molto più rilassato, fai, però c'è appunto il discorso che lì posso fare quello che mi piace, qua posso fare quello che mi aggrada, nel senso che non ho rotture di scatole, anche i miei hobby, non ho mai avuto nessun problema, sono conosciutissimo in tutto il complesso, perché questo praticamente è un complesso, è un condominio molto grande, tutto all'interno, di proprietà privata, quindi non hai rotture di scatole, non è palazzone, è via, tutti, no, questo è un passo che avrei con l'ingresso alle macchine, tutto riservato, è cancellato per terra a piedi, possono giocare i cani, i bambini all'interno, non ci sono macchine, non c'è niente. Quindi automaticamente mi trovo bene anche qua, capito? È lì che sto resistendo. Ora vediamo, se ne parlerà adesso a giugno e si vedrà cosa fare. Ho molti agganci per la casa, perché sto in vendita, però sono sempre, vendo o non vendo, non lo so, neanche io, ti ho detto 50-50. Capisco. Vabbè, già al momento opportuno già si accenderà la panina, al momento opportuno già salterà fuori qualcosa che ti spingerà a prendere una decisione, poi meglio non accelerare i tempi, tanto le cose saltano fuori da sole, quindi è tempo sprecato cercare di accelerare i tempi, quindi evidentemente deve andare così, poi al momento opportuno tac, salta fuori la soluzione. Sì, ma infatti quando poi, anche perché chi ha il insomma la situazione in mano è mia figlia, noi non ci interessa, dal momento in cui lei decide allora si chiude tutto qua e si va via, ma per il momento va bene così, non ho grandi pretese, mi già, ho iniziato a questa tazza l'ho svoltata perché mi volevo trovare impreparato. Adesso se ci riusciamo a tempo buono iniziamo a abbassare tutte le antenne e fare piazza pulita sul tetto, dopodiché io sono a posto, la mia roba me l'ho già ritirata e messa a posto. Quando decidono mamma e figlia definitivamente, allora va bene, allora va bene, capito? Allora si farà il passo unico, non se ne va a vedere per il momento. Sono investimenti che però devi essere deciso, perché poi non si può più tornare indietro, capito? Già, io qua ci sono dal 1987 e ti dico che a dire un ma con qualcuno mai, eppure sono abbastanza stravagante, ho sempre rispettato e mi hanno sempre rispettato. Mamma non mi ha rotto le palle per le antenne, ho sempre fatto quello che ho voluto sul petto, quindi non ho grandi pretese. Nel momento in cui dovesse o era già da prima, da tempo, avere un problema col condomino proprio per la mia attività, allora avrete, io più già adulto che siamo andati, ma siccome non c'è nessun pretesto per poter fare una cosa del genere, stai sempre tentennando, aspettiamo, aspettiamo, sì, vabbè, è chiaro che se le cose, se la situazione è gradevole, tranquilla, sarebbe sarebbe una cosa insensata prendere una decisione così alzata di capo, per cui se uno i passi li fa se ci sono i presupposti giusti, e niente, quindi insomma condivido, concordo con te su questa cosa. Poi giustamente se il rapporto è corretto da parte di tutti, cioè e tutto funziona, tanto di guadagnato, va benissimo. L'importante è che poi alla fine si rispetti, che ci sia il quieto vivere, che poi insomma alla base di tutto sono le regole fondamentali, sono veramente poche quelle da rispettare. Purtroppo al giorno d'oggi siamo pieni di regole e regoline, però se ci pensi vai le snoccioli tutte, le regole fondamentali si possono contare sul palmo di una mano. Siamo noi purtroppo che la società ci ha complicato la vita, però molte volte basta seguire quelle tre o quattro regole e le cose funzionano dappertutto. No, qua è regolarissimo, c'è un rispetto reciproco, ti ripeto, non assolutamente. Io qualcuno l'ho detto così perché ho abbastanza confidenza, a parte il fatto che sono molto molto attivo io in questo condominio. Qualsiasi cosa succede intervengo immediatamente, una lampadina, una cosa, una tronzata, poi ci sono molte persone anziane, soprattutto nel mio palazzo, nella torre, così chiamata, quindi mi chiamano spesso, capito, non c'è problema, sono abbastanza, mi conoscono tutti. Quando ci sono lavori da fare li facciamo con un altro amico che è in pensione, qua è muratore, era muratore, e quindi li facciamo. Noi abbiamo messo altri due paletti di recinzione che erano caduti, abbiamo fatto alcuni lavoretti, cioè ce li facciamo noi, capito? Quindi, e quando ho detto che molto probabilmente vado via, qualcuno no, siamo qua, no, qualcuno mi dava lì, qualcuno mi dava tu, no, vai, ma rimani qua, ci sei 30 anni, ma cosa te ne frega, vai, hai capito, certo che si vede. Non ho mai avuto problemi, dai. Mai, da quando sono arrivato, assolutamente. Rispetto per rispetto, nonostante il mio carattere, c'è stato un periodo che ero abbastanza stravagante, poi forse perché adesso non sto lavorando più, è già più di un anno che sono tranquillo, sereno, sono una futtinuta, già mi hai visto, quindi quando sei al lavoro, che hai responsabilità, sei stanco, arrivi e trovi una cosa che non va bene, l'umore stesso ti porta a incazzarti, a rispondere male, a essere maleducato, capito? Invece quelle cose lì bastano, non esistono più, va bene così. Però ti ripeto, sempre a livello così, qualcuno mi conosce e me lo diceva proprio, cosa c'hai oggi, per chi sei uscito, cosa ti è successo, quindi parli, chiacchieri e un po' ti rilassi, capito? In altre circostanze, in altri condomini, c'è già la traffattezza dei condomini stessi, c'è la maleducazione, c'è l'arroganza, c'è quello che c'è, ma fa piazzare, ma no, troppo già meno più basso, ma stai scherzando, io ce l'ho solo io le chiavi della, perché sopra c'è il tetto, c'è la mansarda e poi c'è il tetto, le chiavi ce l'ho solo io, se tu vieni tutto pieno di roba degli altri, no, ma la fermetta la roba che devo fare, mettila su, aiuto, mettila lì, quella, mettila lì, mettila lì, è tutto pieno di roba degli altri, capito? Non ce n'è problema. E quando sono successi i lavori da fare, accoppia la chiave, chiudimi la porta, mi raccomando, tutte le volte che te ne vai mi riporti la chiave. Cioè se c'è rispetto, c'è rispetto, ma se non c'è rispetto, non ti rispetto neanche io, no? Guarda, è sempre, anche se si tratta di una cosa del genere, è sempre una piccola comunità poi alla fine. E ogni comunità, è come ogni comunità che si rispetti, insomma, se ci deve essere il rispetto reciproco, insomma, perché anche se si tratta di un certo livello di convivenza, comunque si convive sempre all'interno di uno spazio, quindi dove stanno tutti, quindi ti ripeto, le norme basilari sono sempre quelle, mi sono poche ma sono quelle fondamentali, se ci sono quelle poi alla fine tutto si risolve. Certo che sì, certo che sì, avevo 15 giorni, quello del settimo stavo facendo i pavimenti nuovi, la parte del salone era tutta spostata, la cucina l'ho dovuta smontare, l'ha portata su, era disperato, come faccio, come non faccio, no, serve un garage, mi serve un garage per appoggiare una ventina di giorni, 15 giorni, ma non c'è neanche mai che problemi ci sono, c'è la cucina, ti facciano il pavimento, tu si dite che faccio lavori, ma che problema hai? Non serve mettere la cucina, non serve mettere la cucina, ma è già smontata, sì, la stanno smontando, ma io prendi, portala su, cosa devi stare a girarti le balle, l'ha portata su, l'ha messa su, capito, l'hanno presa prima di Pasqua, l'hanno ripiazzata, quindi cosa, cioè, se c'è la possibilità di fare le cose le fai, ma ti ripeto, perché c'è quel rispetto, quella cosa, dove si chiacchiera e si fa, come quella del nuovo piano, quindi sono due vedove, due sorelle vedove, è la stessa cosa, hanno il mio numero di telefono, hanno la massima, qualsiasi cosa serve, ho detto chiamatemi, non c'è problema, capito? Anche l'altra volta, che è finita la bombola, siccome era di domenica, sono andato, io ne avevo una, gli ho messo la mia, e poi lunedì me la ho rifatto lo scambio, capito? Cioè, cosa devi fare? Se è così, è così. Certo, certo, capisco, capisco. Sì, sono una volta che si instaura quel tipo di comunicazione, quel tipo di rapporto, il tutto diventa abbastanza normale, no? Poi sta a noi riuscire a mantenere quel livello di collaborazione, di correttezza e buon senso, perché poi alla fine è il buon senso la chiave di tutto. Una volta che ci sono queste due tre cose, poi viene abbastanza normale, no? Tra persone corrette e disponibili viene abbastanza normale che se capita una cortesia, un bisogno, cioè si alza il telefono e il problema si risolve, capito? Ma così deve essere, infatti io non sopporto questi condomini che hanno la padronanza assoluta, ma tu non sei padrone di niente. Il condominio stesso, la parola stessa è un condominio, quindi tutti siamo padroni, tutti dobbiamo decidere. Cosa vuol dire che decidi solo tu e che tu sei il capo di tutto? Ma no, non esiste assolutamente. No, da me non ci sono queste cose. Non riguardo, dico un particolare che è una strozzata, ma che per qualche quanto siamo uniti eccetera, cioè noi nel periodo della fammata, per dire, un po' la fa quello di sotto di me, che siamo come fratelli, perché mia moglie non la fa, quindi la fa lui, la fa per me e per quello del terzo, che siamo al terzo molto amici, e per quello del sesto, a volte la fa la moglie di quello del sesto, a volte la fa la moglie di quello del sesto. E hanno qualcosa da prendere per dire, adesso per dire anche a Pasqua, quello del primo, ho preso un anno di più, metà, ok, manda la metà, aspetta chiama Nicola e non la trametta a lui, cioè ci dividiamo tutte le cose, ci scambiamo anche i piatti, capito? Nel senso che uno fa una torta, uno fa subito, ti suona, Tommy, aspetta che ne porto un pezzo a quello, mica ho fatto le frittelle, dammi un po' di frittelle, cioè scambiare tutte queste stronzate, no? Che è un senso di amicizia, di sincerità, di cose. Che cazzo vogliamo dire? Secondo me è condominio. O ci vive, ci sai vivere, o se no, come ti dici a Gojo, vado a vivere in campagna, no? Sì, sì, sì, pienamente, pienamente d'accordo, pienamente d'accordo. Pienamente d'accordo qua, non aggiungo altro. E poi alla fine, come ho detto prima, è sempre una piccola comunità. Nelle piccole comunità bisogna che uno faccia la propria parte. Allora, se uno fa la propria parte le cose funzionano. È una cosa abbastanza facile, è una regola abbastanza facile. E poi tutto viene da solo, cioè il resto viene da solo. Cioè, come da altre parti, anche negli ambienti di lavoro, insomma, ci sono le persone che, individui che hanno personalità particolari, ci sono quelli che si integrano facilmente, ci sono magari altri che hanno qualche difficoltà, e insomma, c'è chi capisce da che parte stare, ci sono quelli che non lo capiscono, e insomma, e quindi bisogna riuscire a capire da che parte stare poi fondamentalmente, capito? Perché il problema è quello, se uno non riesce a stare da tutte le parti, evidentemente c'è qualche cosa alla base di più serio, capito? Quindi poi ognuno deve trovare la sua dimensione, giusto, è questo, dicendo. Se uno trova quell'equilibrio, quella dimensione giusta per poter andare d'accordo in un condominio, ben venga, ma ti ripeto, c'è sempre quello che cerca di fare il furbo, nel senso che anche a casa mia comando io, ma tu comandi a casa tua quando sei in campagna, la giura, questo è un condominio e si comanda tutti assieme, nel senso poi diverso a comandare non comanda nessuno, c'è un amministratore che dirige, ma siccome noi siamo tutti proprietari, a volte ci riuniamo anche tutti assieme, come è già successo, per decidere alcune cose che poi ogni, perché noi siamo scala A, B, C, D, E, F, G, sono 7 scale a scendere, quindi la scala principale è la torre, ok, dove abito io, perché è un palazzo di 10 piani, compreso la mansarda, 9 più la mansarda, quindi 10 piani, a scendere in discesa sino a 5, capito? Quindi tutte queste scale hanno un responsabile di scala, un caposcala, che fa praticamente da portavoce all'amministratore. Noi ci riuniamo sempre tutti i caposcala, di cui qua sono caposcala io, tutte e 7, e se ci sono dei problemi da risolvere, delle cose che abbiamo verificato che sono da fare, noi andiamo, convochiamo l'amministratore nel suo ufficio, andiamo tutte e 7 e si discute. Ok, con l'approvazione del condominio, poi dei capiscala, dell'amministratore, si fa una riunione con tutto il condominio, la facciamo sempre lì in via Carlo Felice, perché siamo tanti, e si deliberano i lavori da fare, come abbiamo già deliberato da poco, abbiamo fatto tutti i sottopoggioli, i poggioli interni, grondaie, varie, insomma, abbiamo messo in sicurezza, rattoppi così chiamati, però abbiamo messo in sicurezza tutto, cambiati tutti i gruppi dell'illuminazione, messe tutte le lampadine a LED, abbiamo tolto quelle vecchie, abbiamo ripristinato il cancello, il marciapiede del cancello, abbiamo fatto dei lavori, dove chiaramente ho partecipato io personalmente, perché c'era un'impresa, mi hanno dato l'incarico di seguire l'impresa, l'ho fatto. Quindi c'è tutte cose che nel condomino, se si è tutti d'accordo, si fanno, ma che ci sia uno che dice no, io che a casa mia comando io, tu a comandare ando in campagna, allora anche io mi vuoi comandare, chi ci mette in piazza? E se c'hai alberi, ti vuoi bulo in picca, ma qua si decide tutti assieme. Certo, certo, vabbè, è così che le cose funzionano. Poi giustamente uno è proprietario di un appartamento, ma non ha voce in capitolo per quanto riguarda le decisioni, cioè ha un ruolo che è ben preciso, ma non è quello di amministrare l'intero condominio, è titolare, è responsabile, cioè è il proprietario di un appartamento, ma non è assolutamente il proprietario dell'intero condominio, quindi sono due cose completamente diverse. Beh, come dici tu, la campagna per questa gente sarebbe il posto ideale. I condomini piccoli, sì, no, questo, ognuno di noi è proprietario dell'appartamento, del posto auto, perché i posti auto sono numerati, ok, dove c'è un atto a parte, ed è proprietario di un quinto di tutto il comparto, quindi compreso giardini, tutto, tutti hanno un quinto di proprietà, capito? Quindi sono tutti proprietari, sia dell'interno che dell'esterno, perché noi abbiamo comprato il terreno nel 1983, capito? Comprato proprio il terreno, questo è un terreno comunale, è stato comprato il terreno, è fatta la costruzione, è nata come cooperativa, poi sciolta la cooperativa, adesso si chiama condominio Edera. Quindi tutti sono proprietari, sia internamente che esternamente. Però sei proprietario di un quinto, non proprietario di tutto il complesso. Okay. Quindi nel tuo quinto tu rispondi di quello, io nel mio quinto rispondo di quello. Tutti assieme poi rispondiamo di tutto il complesso. Vabbè, no, c'è sempre quello che sempre, oddio, ripeto qua. Lamentele pochissime, pochissime, si lavora tranquilli, sereni, senza problemi, per avere anche i cani e per poter portare i cani nel giardino che è di nostra proprietà, tutto recintato, nessuno può entrare, ci sono i cancelli di entrata e uscita, e tutti noi proprietari abbiamo le chiavi, abbiamo fatto prima una riunione, quindi immaginate tu a che livello siamo, tu c'hai il cane, perfetto, io ce l'ho, tu ce l'hai, sì, ok, cosa facciamo? Ti facciamo girare nel nostro giardino? Sì, ok, decidiamo così. E abbiamo fatto così. Dal momento in cui uno diceva no, no, il cane nel giardino va bene perché è sporca, perché rovina l'erba, rovina il prato, rovina le piante, rovina. Boh, basta, boh, non si è fatto niente. I cani, fa casino, portateli fuori. Ci sono tanti altri giardini, andate a cagare a casa degli altri. Sì, sì, sì, claro. Perfettamente d'accordo. Perfettamente d'accordo. È così che si dovrebbe fare sempre. Però, come dici tu, giustamente, non sempre, per una questione o per l'altra, non sempre le cose funzionano, quindi bisogna cercare di come si dice, di a volte di mediare, dai. Se c'è la possibilità e se c'è lo spazio. Poi ti ripeto, l'importante è che alla base ci sia l'intenzione di scavalcarli i problemi, cioè di risolverli, non scavalcarli. Se c'è l'intenzione di superarli i problemi non ci sono problemi. No, ma infatti le cose vanno fatte, ti ripeto, in concomitanza con tutte le persone. Nel senso che si deve discutere, si deve approvare, si deve fare, o che siano lavori, o che siano delle idee, o che siano delle cose che ne possono usufruire tutto, come quella dei cani. Cioè, io ho il cane e me lo porto dentro casa mia, prendo, raccolgo e butto la cassa in quella mondezza, però non sto disturbando nessuno, e quello l'abbiamo deliberato. Ma se io, come è successo inizialmente, quando sono, perché dal nono piano non avevo problemi dei cavi, mi entrava completamente nella mia finestra, non si vedeva niente, ma quando tu sei a 40 metri d'altezza, sia al secondo piano, i cavi dovevi passare, mica puoi andare a rompere le palle e facciata a far calare i cavi nelle finestre degli altri, assolutamente no. Quindi, con i 7 capi scavo, ho detto, datemi un'idea, cioè, cosa faccio con questi cavi? Mi muovo una canale, qua in facciata non si può fare, una canale, mi costa una massa di nano. E poi autoscala, canale contro canale, mi sembra una cosa anche brutta da vedere. L'hanno iniziato lo stesso, è stato pronto, e canale contro canale. I cavi li canalizzi, li metti in un corrugato, li fai entrare dentro il proviale dell'acqua, all'altezza della tua finestra, buco, altra canala che ti entra nella finestra. Idea sua, l'amministratore. E così ho fatto. A me non vedi niente. Vedi solo questo pezzo di corrugato che dal proviale dell'acqua, da un tubo grande da 150, esce e va direttamente alla mia finestra. Cavi non li vedi, cavi sono lì dentro. È stata un'idea sua. Beh, ci dico, una finestrella. Ben fatto, non vedi niente. Capito? È chiaro che devi consultare, lui dici bigli i cavi, li molli, quello si affaccia alla finestra e c'hai i cavi in testa, ma che cosa da fare se no? Le idee vanno girate, no? Vanno fatte, vanno chieste, e così abbiamo fatto. Certo, certo, adesso ho capito più o meno come hai fatto a far passare i cavi, poi con tutta la marana che ti ritrovi, quindi certo, a livello estetico e anche a livello di impegno, insomma, immagino anche gli altri, insomma, in vista di questa installazione avranno detto a loro e giustamente a quello è venuta l'idea di nascondere tutto e insomma, mi sembra che abbia avuto una buona intuizione quella di nascondere i cavi lì dentro, quindi è stata l'occasione giusta per fare le cose e metterle a piombo, come si dice. Ma l'ho fatto bene, l'ho fatto con autoscala, l'ho fatto con criteri, ho fatto bene, non vedi niente. Siccome il corrugato che esce dalla finestra era già vecchio, proprio in concomitanza con questi lavori che stavamo facendo qua in facciata, io guardo lo stesso un altro qua, ma questo corrugato lo cambiamo. Ma tu cosa dici? Io senza ne dubbio avevo nuovo. E tolto con un gatto vecchio, spaccato, rimesso, tutto ben siliconato con il silicone nuovo, capito? È data addirittura una passata, siccome il silicone bianco, trasparente non ho voluto mettere, quello bianco buono, addirittura mi ha verniciato di arancione del colore del pluviale anche il silicone, con un mastice arancione che ci è servito per fare delle permeabilizzazioni nei poggiori, dico la cosa fatta regolarata, tutto ben fascettato, non vedi niente, vedi solo questo tubo che entra in finestra, non sai manco che cos'è, capito? Fatto bene, no, cavi ce ne ho un bel io qui, cavi ce ne sono parecchi che scendono, perché salgono, scendono, sono i cavi elettrici del rotore, il cavo elettrico del coso, del commutatore d'antenna, cavi singoli, cavi, insomma ce n'è abbastanza di cavi, però non vedi niente, nulla, bucato nell'angolino della finestra per far entrare i cavi singoli, e basta, non vedi niente, quindi ti ripeto, cosa ce ne fai io, a volte scelto, io non mi ho fatto montare l'antenna, non adesso tu prendi Daniele, il casino ho dovuto fare Daniele perché? Tutto quella è casa mia, quella è casa mia, capito? L'ha affittato l'ultimo piano, tu sei a casa mia, ma gli l'affitto a me, io non posso entrare a casa mia a montare l'antenna, non ne ha fatto mettere, l'ho dovuto mettere esternamente, ma roba la mappi. Magari Daniele si è messo qualche scrupolo e non, in quel suo ha pensato di non alterare determinati equilibri, capito? Poi magari giustamente se faceva la sua opposizione dicendo insomma che ne aveva tutto il diritto, sicuramente lui le cose, le antenne le metteva come voleva, però evidentemente in cuor suo non voleva creare troppi, insomma, troppi problemi. Io adesso sto facendo un'ipotesi, per carità, quindi solo lui le sa queste cose, però insomma, ti ripeto, se la gente è intelligente ed è propensa, insomma, alla collaborazione, le cose poi alla fine si risolvono. Ok, ci sono? Sì, va bene. Sono rientrato, Va bene, io mi sto aspettando l'aria. Te lo aspettavamo e poi vado a cenare perché non ho ancora cenato. Sì, già, però è già partito col piede sbagliato quello là, capito? Perché io ti avviso, dico guarda, fai la cortesia, devo montare avanti, io conosco perfettamente la cancelleria perché ci sono stato e sono molto amico del padre e della madre, quindi non c'è problema, abbiamo passato tantissimo tempo insieme e quindi so dove abita eccetera, e so, l'antenna che aveva prima quando lui era al terzo piano gliel'avevo montata io, quindi non costava niente, c'è un poggiolo lungo all'angolo del poggiolo, metti due staffe e metti sull'antenna. No, ma stai scherzando, ma qui, ma là, c'è chi c'è a casa mia, mi chiamano, un calcio in culo ti butto fuori, ma cosa vuoi? Ma cioè, torniamo al discorso che ti ho fatto prima, cioè in questo condominio non è mai esistita una cosa del genere, ma non perché io sia, assolutamente, io ho sempre chiesto e mi hanno dato sempre il consenso di fare quello che ho voluto, capito? Sempre nell'ambito della possibilità di poterle fare le cose, ma lì era una stronzata e quindi Daniele ci è voluto agganciare esternamente, che è ancora più fea da vedere, ancora più brutta, mentre lì sarebbe stata una cosa bellina all'angolo del poggiolo, non ti dà nessun fastidio, invece non l'era fatta montare. Avanti ti. Ho messo questo microfono all'altro apparato, com'è? Ha cambiato qualcosa? Ho messo il microfono all'altro apparato, cioè, ma la mia domanda è questa, scusa, quanti microfoni vai, gas? No, questo è un altro apparato, il SEAC, ho abbinato, no, i microfoni sono gli stessi, come tu sai, cavetti fatti apposta per poter attaccare qualsiasi tipo di radio, quindi sto utilizzando sia cavetto che aspettone che microfono, capito? No, questa radio sul Seart è la stessa dell'Alan 48, precisa identica, non cambia niente. No, vabbè, addirittura questo qua è il più 4, mentre invece l'altro era il più 5. E quindi ricordate che dal più 4 al più 5 c'è solo i toni, quando tu a me mi metti il tono a 0 del più 5 e mi usi il più 4, secondo che baracchino è, io non so distinguere se è un più 4 o più 5, è lì la differenza, la regolazione dei toni, perché tu vai a comprare i due microfoni originali senza toccarli, hanno la stessa capsula, stesso circuito di preamplificazione, in più il più 5 c'è la regolazione dei toni che va a chiudere ed aprire e comprimere praticamente sul circuito di preamplificazione, basta, non altro, però i microfoni sono uguali, quindi se tu chiudi il più 5 e usi il più 4 sono uguali, questa è la stessa modulazione della LAN 48, per me, io ti sto sempre ascoltando col 440. Gianni? Sì, sì, è pulita, limpida, chiara, proprio, non satura, va benissimo, per fare questo va benissimo, è l'ideale, quindi sottoscrivo anch'io. Sì, va bene, no, è giusto per metterla in uso anche a lì, se no rimane in disparte, allora, perché col microfono normale, per carità, non va bene, ci vuole un amplificato, anzi pensavo che non lo teneva anche, perché ci sono alcune radio che magari l'amplificato non lo sopportano, invece questa qua, visto che mi sta dicendo così, vuol dire che va bene. Non lo sopporta, PLL, quella è quartata la radio, siamo 23 canali, altro non lo sopporta, se tu sentivi la KB23 corsa verde, altro che tempo dove era, sono i migliori quelle radio, Tino, per ricevere i microfoni preamplificati, è bellissima la modulazione, molto bella, veramente, ti dirò che se l'ascolti bene è ancora più bella dell'Alan 48, che ti ripeto, ribadisco, è la migliore che hai, però questa è veramente molto bella. Adesso gli metto l'amplificatore attaccato e vediamo cosa esce. No, non giocare, no. A te ti è venuto questo incubo del preamplificatore, ma cosa te ne ha fatto il preamplificatore? Ma lasciare una attaccata con un linearetto, c'hai l'Alan 48 con il 747, arrivi qualche K con 50 watt, ma cosa te ne ha fatto? Ma le altre lasciale, falle girare senza niente, non stare attacca, ma cosa te ne ha fatto? No, cosa c'entra? È che hai la cosa, se non la utilizzi tanto vale che la vendi, io ce l'ho, la voglio utilizzare in maniera tale che non si deteriori, non peraltro, tu sai benissimo che del radio ce l'ho sempre conservato sino a poco tempo fa, buttato da una parte, tra virgolette buttate, ho deciso di metterle in funzione e le sto abbinando pian piano, senti oggi, senti domani, quindi quale va bene il microfono e meno, capito? Come stavo provando, sta facendo il giro questo amplificatore, quindi lo lascio dove va bene, se non va bene da nessuna parte lo lascio di nuovo avere come interessa utilizzare. Vabbè, nel precedente non lo puoi attaccare perché ti salta la modulazione, anche se abbassi la potenza, non ho capito il perché. Nel 48 va benissimo, in questa lo puoi provare, ma sicuramente andrà bene. Nel Royce non so se l'hai provata, ma va bene, lo dico, a meno che non c'hai tre amplificatori per tre radio, ma se ne hai uno di amplificatore, lo usi su una radio e basta. Io l'amplificatore che ho, quello, ne ho diversi, ma quello più piccolo di tutti, che è 747, io quando decido di usare usare definitivamente l'Alan 48 come baracchino per fare due chiacchiere, gli attacco il 747, rimane fisso il 747 e basta, capito? Gli altri non mi interessano, tanto io uso quasi sempre questa, quindi non è quello il problema, capito? Cioè averne uno di amplificatori, usarlo con una radio, a meno che non ne hai tanti altri. No, ne ho due, basta. Col 747 che lo stavo utilizzando in un'altra radio, per cui adesso l'ho voluto provare anche nel Lincoln e non andava bene, quindi l'ho tolto, l'ho lasciato nel 48. No, questo è normale, è sui 3 watt, questo ha 3 watt, non ne ha tanti, questa a casa è data 3 watt e non credo che vada bene a pilotare quello da 200 watt, capito? Non ne attacco neanche, non mi interessa. Ma infatti non ne attaccare, questo se lo vuoi fare due chiacchiere per farlo girare, questa è una bellissima modulazione, segnale 9.5, va bene, poi il 48 se c'hai il 747 lo lasci attaccato lì, e l'altro lineare dove ce l'hai attaccato, va bene. Per conto mio si è a posto, poi ti ripeto, io non... Baracchini, anche perché mi manca l'altra base, non ne attacco, perché sennò tocca a cavallarli, metterli sopra le radio HF, a me non mi piace, no, mi graffia tutto, no, vabbè, capito? Però lì, se ce li hai sistemati, usali così, avanti già. Dai, alla fine Tino sta riuscendo a trovare la quadra del cerchio, dai. La quadra del cerchio è un modo di dire, no? Stai trovando la quadra del cerchio. Ah sì, è un modo di dire, ho capito, no, infatti ero un po' distratto. No, sto cercando di sistemare un po' il tutto, in realtà è che una volta fatto non ci metti più le mani, devi stare sempre lì a cambiare, a fare, capito? Questo MB più 4 va bene, sia col Seat che con tutti i baracchini che hai. Il più 5 va bene, con tutti i baracchini che hai, cosa devi cambiare? Poi sta a te, dice, beh, oggi uso il Seat con l'MB più 5 e l'MB più 4, va bene lo stesso. Io l'MB più 4 l'avevo dato a Giuseppe, l'avevo dato a Giuseppe di Alghero. Mi è rimasto il più 5, ciò va bene in tutti i baracchini, qualcuno ci vuole l'attaccatore, però uso sempre quello, capito? Ottimo, sono degli ottimi microfoni, ti ripeto, ma sa canalizzati al quarti, 23 canali o 26 canali eccetera, qualsiasi microfono le metti ti danno una bellissima modulazione. Sì, sì, ma è giusto per così per gioco, che può essere due minuti attaccare, fare, no, non niente di che. Sapete della passione, a me mi vengono di sempre, in quei giorni avevo una cassetta grande, c'erano 10 baracchini dentro, tutti da pulire, controllare, provare soprattutto, ero tutti i santi giorni, e toglievo uno, lo pulivo, lo provavo, alla fine ho detto, boh, finito, le prove le ho fatte, io tutti dentro la cassetta, andate a fanculo. No, non mangio più per verso a te, voi. No, cosa c'entra? Io per dire, ti ripeto, un po' di attrezzatura, poi ti rilancio, un po' di attrezzatura che non utilizzo, che il discorso di poc'anzi, che non mi viene neanche in testa minimamente di stare lì a fare ascensori e quant'altro, mettere direttiva, non me ne frega niente. Ho detto per averlo lì buttato nell'armoire, perché ce l'ho conservato nell'armato. Poi adesso lo rimetto in vendita, però voglio prendere tutto quanto completo, in maniera tale che se vendi non vendi solo l'ottore, oppure solo il commutatore di antenna, o il ricello o quant'altro, capito? Una volta che sbatto tutto quanto in un sito e se riesco a prendere tutto compreso va bene, se no ciccia. Beh, il rottore lo devi prendere con il suo controbox, no? Che puoi vedere il rottore senza il controbox. Un attimo ha mandato la volta Marino alla Fradì che c'è un controbox, il rottore dov'è? Non ce l'ho, e allora controbox tiritelo, so che come faccio il controbox se non c'è il rottore suo, tutti i controbox hanno il suo rottore, non è che mi vedi un rottore senza controbox, oppure il controbox senza rottore, non serve a niente, è modesta, ne ho due io controbox dentro l'armadio, ma sono diversa marca, non vanno bene per lo IAESO, quindi non te ne fai nulla. Capito? Così è chiaro, devi vendere tutto assieme. O se vendi il commutatore della Meritron devi vendere tutto la sua canalizzazione, i suoi cosi, eccetera, eccetera. E lo so, molta gente queste cose non capisce. Come io continuo a non capire, anche da poco mi è successo, mi ha chiamato un amico, sto vendendo una radio, ho detto perfetto, che radio è? Questa, sì, così, vabbè. Dimmi cosa vuoi, mandami un po' di foto, vedo se riesco a darti una mano, mi manda il voto, e ti scusa, il microfono, il cavo di alimentazione, cazzo non c'è un cavo di alimentazione, il microfono, cazzo ti l'hai mangiato, ma ti pare che posso venditi una radio senza cavo di alimentazione e senza microfono, cosa la devo dire a chi te la sta comprando, che me la sono tenuta io, fa una cosa, vendi di radù. No, vabbè, ma io se vendo rotore è logico che do anche tutto il resto. No, per quello non ci mancherebbe altro. Sì, ci conosciamo la vita, lo sai, quanto io sono preciso nelle mie cose, ordinato, ma se ti do una radio ti devo dare il microfono e cavo di alimentazione, non ti posso prendere una radio senza microfono e cavo di alimentazione, ma non esiste, capito, non esiste proprio, quindi niente, lo detto, io ci provo, poi alla fine non me la fottia nulla e l'ho lasciato fare, perché non sei ordinato, non sei preciso, non hai, cioè io ho ancora la scatola del 440, cioè sui Massarda, ho la scatola del controbox, ho la scatola del rottore, ho la scatola della Meritron, ho la scatola di tutte le radio che io ho qua, c'ho tutto sui Massarda, ok? E quando ho venduto una radio, l'ho venduta con la scatola, con i suoi cosi, i suoi manuali, i suoi microfoni, i suoi cavi di alimentazione. Quando ho venduto il TC2000, anche i fusibili di ricambio e connettori che avevano mandato tutto dentro una bustina. Cioè, cose vi essere ordinato, se no, cazzo sia un pacchettone, sia uno zingaro. Ma di cosa mi va vendendo? Vai già. Ehi, vabbè, non so chi era Gianni, comunque presumo che fossi io. Ragazzi, io questa sera chiudo qua, stacco, e niente, dai, grazie per la chiacchierata, e niente, ci sentiamo appena possibile, dai, quando coincide, come si sa dire, come si usa dire, dai. Un salutone a tutti, Claudio, Tino, Gianfranco, ho sentito prima, e chiunque fosse su 10. Buona serata, buon tutto e alla prossima, grazie. D'accordo, va bene, io un pochino mi rimango qua. Vediamo un po' di guardare qualcosa al PC. E niente, poi vediamo se combiniamo. Sono su riprendi. Ciao, buonanotte, sentiamo domani. Riprendi clap. Sì, dai, l'aria sta parcheggiando, ti vado a cenare anch'io. Sono già le 9:30 passate. Non ho ancora cenato. Ok? Ciao Gianni, buona serata, buon tutto, se coincide domani. Sì, io stacco, dai, vado a mangiare e lascio acceso qua, se ne vuoi a dopo, se no a domani, ok? Meglio, non c'è problema, sono qua, dai, poi se ne vuoi, se ci sono ancora, fa una chiamata, se no vuol dire che anche io vado a fare 144. Gappa gappa, ciao. Ciao, ciao. Oh Claudio, se ci sei, fate sentire un attimino, aiuto. Claudio.